È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. La fatonza sta a distanza, lei scarseggia anche se c'è in abbondanza. Se la cerchi, lei si scansa, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa. La patonza deve girare. Vada bene. Caro Parenzo, questa è la chicca che ci ha regalato ieri sera l'ex sindaco di Milano Albertini. Sì. Avercene di Albertini. La frase, vabbè, avercene adesso subito con Albertini. A lisciare il pelo ad Albertini. Ma Albertini, mi carina, scusa. No, d'accordo. Comunque, avete sentito la frase clou dell'intervento di Albertini ieri sera qui alla Zanzara, dove siete, non è ieri però, oggi siamo il giorno dopo, capito? Il giorno dopo, dunque stiamo ritrasmettendo quello che ha detto Albertini. Beh, è un classico ieri, della sua forma, delle meglio di questi pezzi, di farli ascoltare. Bella sta trasmissione, bravo Cruciani. E allora si riferiva Albertini a un colloquio tra Berlusconi e Agnelli che hanno avuto, pare, una stessa donna, una donna in comune, non si sa bene, non si sa quando, non si sa chi soprattutto, e a un certo punto Agnelli se ne uscì in questo modo che facciamo riascoltare ancora. Ecco. Berlusconi ha raccontato di aver avuto una... Sì, no, hanno scoperto di aver avuto insieme, una donna in comune. Una donna con l'avvocato Agnelli. E allora dopo questo racconto in cui... anche tu, a un certo punto pare che l'avvocato Agnelli abbia pronunciato questa frase. Cioè, la patonza deve girare. Cosa è un termine stupendo, direi da grande signore. Siamo alla Zanzara, 800 24 00 24. Tra le cose del giorno, oltre al fatto che Brusca, vi ricordate chi è Brusca? Ha citato addirittura il Premier, gli dissi accordo o bombe. Che noia. Una noia mortale. Dopo Ciancimino stai un po' attentino. Bisogna credere a Brusca. Gli dissi accordo o bombe. Berlusconi e Dell'Utri non coinvolti nelle stragi del 93, mandai Mangano a Milano senza la revisione del 41 bis, le stragi sarebbero continuate, eccetera, eccetera. La stessa storia, Berlusconi, la mafia... E chi più ne ha più ne metta. La questione della missione in Libia. Secondo la Lega, caro Parenzo, ci vorrebbe una data certa per la fine della missione. Ora come si fa? Una cosa clamorosa. E infatti la NATO dice: beh, sì, insomma, la missione deve finire quando deve. Decideranno i militari, no? Quando c'è da beh, anche la politica, naturalmente, può decidere, non solo i militari. Però cosa sa? Bossi sa quando ci sono come vanno le operazioni lì. Infatti, è una cosa tutta italiana che non ha nessun riflesso poi sul concreto, sul territorio. Comunque, mettiamo uno qualsiasi dei leghisti, tanto è uguale. Reguzzoni. Il termine è rimasto, il governo dovrà, in accordo con le organizzazioni internazionali, fissare un termine e comunicarlo al Parlamento. Divento gay. Ci sono i complottisti su Bin Laden, hanno subito iniziato il grande cancan. Il principale complottista è Giulietto Chiesa, sentite. Mi domando come si possa non guardare l'idea del complotto, visto considerato che tutto questo è un complotto che non ho inventato io, ma che io sto semplicemente da 10 anni analizzando. Cioè, vuol dire, ma è assolutamente comico l'uso della parola complotto. Per un giornalista che dovrebbe sempre chiedersi se la versione ufficiale che gli viene data è attendibile o meno, dire che si occupa di complotti è... è un complotto comunque. Ma sì, ma Giulietto Chiesa è lo stesso che diceva che l'11 settembre era stato fatto dagli americani, dagli israeliani. Giulietto Chiesa. Vogliamo iniziare da una cosa, però, da un tema che è caro a tutti gli italiani. Scilipoti? Stavolta no, Scilipoti. Le pensioni. Ed ogni giorno tutti al lavoro, dall'idraulico al barbiere, muratore, giardiniere, passano gli anni ad aspettare di pigliare la pensione, non dover più lavorare. E abbiamo qui l'uomo che ha superato il Papa. Viene prima del Papa. Habemus Jordanum. Mario Giordano, direttore del News Media. Buonasera a tutti. Bravo, ma bravo. Non è tanto superare il Papa, ma superare Saviano. E vabbè, ma Saviano nei confronti del Papa chi è? Sono esageriamo. Adesso, perché tu con Saviano hai un, non dico un contenzioso, ma insomma, certo non ti è simpatico. Prima, quando dicevi il tema caro a tutti gli italiani, vista l'apertura della serata, pensavo arrivassi alla Patonza di nuovo. Vabbè, quello sempre, comunque. Poi ci sono anche le pensioni, no? C'è la Patonza, però ci sono anche le pensioni, per carità. Perché stiamo dicendo che Mario Giordano, autore di Sanguisughe, le pensioni d'oro che ci prosciugano le tasse, edito per Mondadori, ha superato il libro di Papa Ratzinger. Che bisogna dire, è vero. Solo non è che ce lo siamo inventato, non è che ce lo inventiamo solo noi perché sei qui. Ma perché c'entra adesso? Citi pure il prezzo. Citi. No, sei arrivato a quel, con gli ospiti, sei arrivato a questo livello. Ho detto solo. Cioè, no, prima lisci il pelo. Perché è un falso. Poi a un certo punto. Perché è un falso? No, è vero. Ho detto il falso. 50, ho dico detto il falso. Ma la gente potrebbe spaventarsi, non gli fai un gran servizio. Le persone potrebbero spaventarsi. No, un libro bello. Anche Giuliano Amato, che fra poco Giordano ci spiegherà perché è un pensionato d'oro. Anche Giuliano Amato, però, si è spaventato di fronte a te. È scappato via. È scappato, eh? Perché? Come mai? Sentiamo. Sentiamo. Sentiamo. Un uomo così preparato. Professore, possiamo farle un paio di battute? No. Questione delle pensioni. No. Professore, non faccio battute di nessun genere. Sulle pensioni, no, sulla riforma? No. Ci avete politici in servizio. No, perché volevamo capire per il futuro proprio del paese sulla questione delle pensioni. No, non faccio. Ogni giorno. Ma scusa, spiegami bene, Parenzo, la musica era Febbre da cavallo sotto. Sei andato a inseguirlo per la 7 con le telecamere. C'era sta roba di quattro tromboni, tutti riuniti, questi think tank di tutti i diversi partiti. Vabbè. No, ogni partito ha fatto il suo think tank. Sì. Il futuro del paese, dobbiamo riforme strutturali. Cioè, dico, vabbè, dopo le riforme strutturali, però prova a fare domandina al professor Amato. Scusi, Giordano, quanto prende di pensione Amato, accumulando diverse 31 cose? 31.000 euro al mese. Al mese, professor Giuliano Amato. Sommando due pensioni, sono le 9.000 da parlamentare, le 22.000 da professore universitario. Ma è uno scandalo secondo te questo qua oppure no? Cioè, naturalmente non è che ruba i soldi, è tutto legittimo, ma è uno scandalo nella misura in cui una persona che appunto ha chiesto grandi sacrifici agli italiani gode di una pensione abbastanza ampia, non ha evidentemente neanche il coraggio di difendere la testa. Tra l'altro, i 22.000 euro da professore universitario nascono attraverso un piccolo meccanismo. Perché non tutti i professori universitari prendono 22.000 euro di pensione, no? E quindi lui ha avuto un ricongiungimento che ha avuto quando era presidente dell'Authority, dello stipendio, si è fatto riconoscere, cioè è stato riconosciuto l'indennità come stipendio, ha ricongiunto, poi quando è diventato ministro ha posto una norma della finanziaria che ha impedito che la stessa norma potesse essere applicata agli altri, perché sennò sarebbe stata troppo costosa. Ma insomma, secondo me il punto è questo, non c'è nulla di cui vergognarsi perché uno prende la pensione che deve prendere secondo le norme vigenti. Il problema è che poi dovrebbe rivendicarla questa cosa, dovrebbe spiegare e rivendicarla, perché poi ha chiesto sacrifici agli italiani, ricordiamo la finanziaria di Amato. Ma è quello che prelevò. Invece è scappato, no? È quello della manovrina, ti ricordi? Non solo, c'è un altro tema, che non ci sarebbe nulla di scandaloso neanche quello che prende 90.000 euro, il più ricco pensionato italiano. Chi è? Che prende. Chi è? Mauro Sentinelli, ex manager Telecom. Adesso non è consigliere che lo cercano sotto casa dopo questa cosa. No, prende 90.000 euro al mese, beato. 90.000 euro al mese? Però è un'azienda privata, è diverso. Vabbè, ho capito, però che vuol dire? Sempre dal fondo IMSS. Il problema vero è questo, il tema, che finché uno prende contributi che ha versato di tasca sua, per carità, uno può prendere. Il problema vero è che invece in questo meccanismo delle pensioni non si prendono i contributi versati, ma molte di queste pensioni, comprese quelle di Amato, se non altro nella parte parlamentare, vanno a carico della fiscalità generale. Solo per le pensioni dei parlamentari costano alla fiscalità generale 204 milioni di euro l'anno. Ecco, Giordano, ma perché uno si compra questo libro? Perché è terzo in classifica? Per incazzarsi? Perché per dire io magari queste cifre non ce le avrò mai? Per aspettare la gente sotto casa? Perché io credo che pongano un tema molto serio, quello che stiamo preparando una generazione di persone che la pensione non ce l'avranno mai. Allora, visto che vengono costantemente chiesti dei sacrifici, io do alcune indicazioni da dove si potrebbero cominciare a fare i sacrifici sulle pensioni. Ecco, qualche indicazione pratica. I top 5 dello scandalo chi sono, secondo te? Guarda. Nomi, cognomi e indirizzo, direttore. Indirizzo, ci pensiamo noi dopo. Indirizzo, pure l'indirizzo. Alla Santona trasparenza, ci vanno gente da sapere. Ma guarda, per esempio, secondo me il fatto che ci sia un parlamentare che da quasi 30 anni prenda 3.108 euro al mese, lordi, che sono 1.733 netti. Toni Negri? No, anche Toni Negri per aver fatto 64 giorni, e questo è una scuola. Ma c'è di meglio, perché c'è un parlamentare che prende la stessa cifra per aver fatto un giorno. Un giorno? Un giorno. Dal 12 maggio 1983 1982 al 13 maggio 1982. Luca Boneschi si chiama, Luca Boneschi se non sbaglio, no? Luca Boneschi. Avvocato Boneschi, ci chiami in diretta qui alla Zanzara, facciamo un appello. Avvocato sì. Luca Boneschi fu proclamato deputato il 12 maggio del 1982 e il giorno dopo, il 13 maggio, terminò ufficialmente il mandato. 24 ore in carica, nemmeno una presenza in aula e prende 1700 netti. 1108 lordi, 1733 netti. Come 1700. Lotta l'avvocato. Però anche qui ci chiami per dire come spende questi soldi, magari gli dà in beneficenza, non lo sappiamo. Il problema è che non può rinunciare. No, non può rinunciare, però io credo che un paese che chiede sacrifici potrebbe cominciare, per esempio, a stoppare questa pensione. I diritti acquisiti non si toccano, gli errori acquisiti si aboliscono, si correggono. Sì, i vitalizi dei parlamentari, certo. È complicato intervenire, però certo, si dovrebbe cominciare a intervenire, si dice sempre, non lo si fa mai. No? Su questo adesso non è stata allungata, ci vogliono 5 anni, anche 5 anni per la verità mi sembrano pochi, non è più possibile maturare la pensione con un giorno, però quelli che la prendono per un giorno, secondo me se la sospendessi... Bisognerebbe abolirli i vitalizi dei parlamentari, tu curra a un certo punto? No, secondo me dovrebbe essere corrispettivi rispetto ai contributi versati, semplicemente, banalmente, non si può pesare sulla fiscalità da parlamentare, da parlamentare. Certo. Come per tutti gli altri. Tenete presente che oltretutto i parlamentari godono anche dei contributi figurativi. Oscar Luigi Scalfaro, oltre sì. al vitalizio, lui non è pensionato perché continua a essere senatore, prende 4.700 euro netti come pensione INPDAP da ex magistrato, avendo fatto il magistrato per 3 anni, dal 43 al 46. Cioè queste persone qua, secondo me, non possono scandalizzarsi perché c'è il debito pubblico, perché c'è, cioè non possono fare la voce sì. grossa su queste cose, non la possono fare, c'è poco da fare. Però tanto cambiano, cioè, cosa diceva Einaudi? Conoscere per deliberare. Noi, cioè, i libri si vendono, no? Giordano è terzo in classifica, poi dopo cambia qualcosa, no? Perché tanto questi se ne fottono, destra e sinistra e tutti, cioè, direi che... Però non è neanche vero rinunciare a sperare al cambiamento. Ripeto, sulla pensione dei politici qualcosa è stato fatto, bisogna fare assai di più, assai di più. Traffico, torniamo tra un attimo. Perché il traffico questo? Come c'è il traffico? Traffico? La gente torna. Ma Giordano è arrivato qui puntualissimo, non c'è nessun traffico. Andiamo avanti con Giordano. Da dove veniva Giordano? Venivo da Cologno, da Monza, qui, vabbè, ho capito. Però ma non è piacere, ma c'è il direttore, perché manda il traffico? Ma c'è il traffico, vuoi fare come Giuliano Ferrara? Vuoi fare con la la sceneggiata di Giuliano Ferrara che fece qua, stupenda, che facciamo risentire subito dopo. Sì, traffico però. Però vi devo confessare una cosa. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strade in diretta. Vabbè. Era Giuliano Ferrara ormai 2 anni fa, per carità, viva Vegeto, ormai 2 anni fa qui a Radio 24, sulle strade in diretta che tanto ti piacciono. Caro Parenzo, 800 24 00 24. Prima di tornare a parlare di pensioni, però volevo, insomma, abbiamo qui, caro Parenzo, sanguisughe, un rappresentante sanguisughe di quella che viene chiamata, dicono. La struttura delta. La macchina del fango. La macchina del fango. Ma esiste sta macchina del fango, Giordano? Se esiste funziona malissimo. In che senso? Come? Dicono dalle parti scelle Repubblica, scelle Espresso, che invece funziona a pieno regime. La struttura delta. E si organizzano campagne di disinformazione o no? A me non risulta. Cioè, tu non hai fatto nessuna riunione con Berlusconi per decidere oggi facciamo questo, oggi quest'altro, colpiamo questo? No, non ho fatto nessuna riunione. Quando è l'ultima volta che hai sentito Berlusconi per telefono? Ho sentito per telefono a Natale, per gli auguri di Natale. Per gli auguri di Natale. Anzi, gli ho fatto il telefonato per gli auguri di Natale, lui mi ha richiamato a Santo Stefano. Okay. Tu hai chiamato, ma hai parlato direttamente con noi facciamo sempre la stessa domanda. Sì, no, io ho chiamato col centralino. Col centralino di cosa? Di Arcore, ho lasciato detta signora. Ti ha risposto Bondi? E lui, no, non più, quello una volta faceva così. Tu dici è tornato. No, non è tornato lì. No, non è tornato. Il più ministro, ma lui lo sa, è più informato di te. Fatti sentire, più informato di te, no? Da questo punto di vista. È direttore, c'è delle regole. No, ma Arcore è, come dire, una cosa molto aperta. Si telefona, prende nota. Molto aperta questo. Me l'ha tirata direttore lì, me l'ha servita lì. Che sia molto aperta era abbastanza evidente abbastanza chiaro. It's an open house. E niente, mi ha richiamato il giorno di Santo Stefano per gli auguri di Natale. Ha richiamato lui? Di ritardo. Sì, sì. Lei lo chiama dottore o presidente? Lo chiamo presidente. Lo chiama presidente perché anche la scena no, Mediaset. Perché quelli e dottore sono quelli da vecchia guardia. Io non ho lavorato con lui quando era in Mediaset. Sono arrivato per cui, insomma, Presidente. Riunioni, niente, no, strutture delta, niente. Ma allora sarà che non esiste una struttura delta? Non lo so, io ripeto, se da come vedo, se esistesse bisognerebbe licenziarla, perché insomma mi sembra che le campagne, come dire, funzionino così. Cioè dal punto di vista del consenso? No, dal punto di vista del consenso, dal punto di vista, cioè mi sembrano, a leggere i giornali, a vedere le cose, non mi sembra una campagna così o ben organizzata. No. Ma sì, ogni tanto c'è qualche cosa, ma è normale, io credo che sì, no, okay. Parenzo, c'è la lotta politica, ma io ricordo che si riflette anche nei giornali più o meno di area, ma questo succede col centro-sinistra, succede col centro-destra, poi certo c'è conflitto di interessi, ma insomma io ricordo un titolo molto divertente del giornale. Arcore piuttosto aperto non è male, Arcore è piuttosto aperto. Se no, è un posto aperto, un posto aperto, una casa aperta, no? Una casa aperta, una casa aperta. Lui intendeva in un altro senso, però è ambigua la cosa. Casa aperta. Lei festa a casa di Berlusconi mai? No, mai, perché sposato con figli, no, non sono mai stato invitato a fare pranzi di lavoro, sì, mi è capitato durante la giornata, e cena mai. Va bene, 800 24 00 24, abbiamo un ascoltatore, direi, e andiamo a Stefano da Bologna. Buonasera. Stefano, dica. Parlavo per l'uccisione di Bin Laden. Cosa vuole dire su Bin Laden? Volevo dire che, dato che gli americani sono esportatori di democrazia, come mai che non l'hanno arrestato e hanno fatto un giusto processo come Saddam? Beh, sa, processare Bin Laden, magari ne sapremo più tra qualche mese, forse, certo, poi non si sa. Cioè c'è questa fissazione che bisogna per forza sapere la verità. No. Cioè, non è che bisogna per forza sapere la verità. In alcuni casi ci sono segreti militari che durano decenni, non vengono mai fuori. Non è detto che poi esca fuori tutto, e non so nemmeno se sia necessario che esca fuori tutto. La vita, la storia sono fatti di misteri e di segreti che restano per sempre. Magari vedremo tra poco il filmato dell'uccisione, e vedremo il filmato del funerale. Pare che ci sia stato un funerale su una nave americana. Vedremo il funerale di questa sepoltura con questo corpo che entra dentro l'acqua. Come li definirebbe lei, Giordano, questi revisionisti che iniziano subito, a questi dietrologi, eccetera, eccetera? Ma io sono la persona, credo, più lontana dai complottisti, però posso dire che in questo caso qualche domanda me la faccio anche. Qualcuno mi deve spiegare perché, quando dobbiamo fare il DNA di Yara Gambirasi o da Brembate, dobbiamo aspettare 6 mesi che non ci sono ancora celebrati funerali, e invece il DNA di Bin Laden l'abbiamo fatto in 2 ore. Sono americani quelli, vabbè, quelli sono americani. No, certo, è una procedura abbastanza, deve essere stato tutto deciso, come dire, pianificato, perché insomma velocissimamente abbiamo avuto. Se un Presidente della Repubblica, Presidente degli Stati Uniti d'America, va e dice una versione, questa versione deve reggere, cioè la macchina del fango della Casa Bianca dovrebbe essere in grado di creare una struttura, una cosa credibile. Ora, che gli americani abbiano bruciato l'elicottero perché si era fermato in Pakistan, che è un territorio alleato, adesso se si ferma un elicottero a Gedi, lo bruciano perché non finisca dei vigili urbani dubbi, di Gedi. Dubbi di Giordano. Osama Bin Laden, la macchina del fango della Casa Bianca. Esiste una macchina del fango della Casa Bianca, e non a Palazzo Nazione, capito? Ho qualche dubbio. Anche questa cosa che cade in mare, cioè gli fanno il funerale in mare così velocemente, dinamiche un po' azzardate, lei ha ragione. No, non è che si sono preoccupati molto con Saddam Hussein di impiccarlo, di far vedere, cioè, quindi non so, qualche domanda è legittimo farsi, poi per dare ragione anche tu, non è che dobbiamo sapere tutto, però almeno che ci presentasse una versione, un pacchetto, a cui possiamo credere, noi ci crederemmo più volentieri. Allora, facciamo un appello, il direttore news di Mediaset fa un appello alla Casa Bianca, ci presentassero dica la verità, un pacchetto almeno credibile, poi non dico vero è troppo, vero no, vero non è detto, credibile. Verosimile. Senta, a proposito, però io ho una domanda qui che mi tengo dentro e che gliela devo fare per forza. Berlusconi. No, non c'entra niente Berlusconi, non lo so, in questo caso. Però quel famoso episodio di Mediaset dei calzini turchesi di Mesiano, eccetera. Ah, il giudice Mesiano. Lei lo considera alla fine un errore oppure no? Da tecnico dell'informazione. Io calzini conosco blu. Giordano, so che è una persona intellettualmente onesta, che non ha problemi a dire come la pensa. Allora, fu un errore da parte di chi fece il servizio, di chi lo commissionò, oppure no? Stiamo parlando del famoso caso Mesiano. È assolutamente un errore. Credo che nessuno abbia messo in dubbio che sia stato un errore quel servizio. Un errore commesso da chi? Innanzitutto dal giornalista che ha fatto il servizio, e poi dalle persone ovviamente addette al controllo di quel servizio. Credo che quello perché sia... fu un errore? Però... perché quel servizio lì è un servizio che giornalisticamente non stava in piedi. Non c'era. Non c'era. E perché fu fatto, secondo lei? Questo non so, si fanno tanti errori. Da lì a dire che dietro questo un servizio sbagliato, ne stiamo parlando ancora adesso di servizi sbagliati, se ne sì. fanno tantissimi. Da lì a immaginare la macchina del fango, prendiamo i giornali, a cominciare da Repubblica, dall'Espresso, di servizi sbagliati ne fanno tanti e onestamente si ammettono che sono sbagliati. Cioè non venne dalla lei all'epoca, cos'era? Direttore io all'epoca ero direttore di Studio Aperto. Sì. Ero all'epoca di Studio Aperto, quindi lo vidi in onda sulle reti. Sulle non reti fu commissionato dall'alto, secondo lei? E a me non risulta, io non ho avuto. Cioè, fu commissionato dal direttore, credo, da io Brachino. Non so no? da dove, cioè, fu un errore di Brachino. L'errore di Brachino mi sembra che abbia anche pagato con una sanzionato, è stato sospeso dall'ordine. Abbiamo quindi, giornale radio, torniamo tra rimane poco. Giordano, no? Sì, certo che rimane. Perché abbiamo tante c'è, cose in cui discutere. C'è giornale radio, no? Sanguisughe. Sanguisughe. E a questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24 con David Parenzo in studio e con Mario Giordano che viene prima del Papa, direttore delle news di Mediaset. Non è che viene prima del Papa come importanza, viene prima del Papa perché il libro che ha scritto Sanguisughe, le pensioni d'oro che ci prosciugano le tasche, che fa arrabbiare, anzi incazzare un sacco di gente, è terzo in classifica. Giordano batte il Papa, dramma in Vaticano, c'è già un titolo. Come dramma in Vaticano? Dramma in Vaticano. Tu dici che gli uomini del Papa sono preoccupati per questo, non penso. C'è molta allerta lì. C'è macchina del fango del Vaticano. No. Allora, andiamo a sentire, non attraverso Parenzo, ma sì. attraverso la solita voce, io la preferisco. La signora Polanco. Mi vuoi uccidere? La signora per Polanco. Questo? No, per carità. No. Però capisci che tu, la signora Polanco che lancia il TG3 di Bianca Berlinguer, comunque per carità. Sentiamo. Ubi Maier. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Otto mesi di indagini prima del blitz nel computer di Bin Laden, una miniera di informazioni, in un nuovo video, il covo del terrorista. La CIA non informò il Pakistan all'irritazione di Islamabad per il blitz non autorizzato, rafforzate in Italia le misure di sicurezza. Accordo PDL Lega sulla Libia, la missione sarà a tempo, ma la NATO precisa andremo avanti finché serve, l'opposizione, umiliante panorama. Referendum oscurati, la protesta dei promotori davanti alla commissione di vigilanza RAI, slitta ancora la seduta sul regolamento. Brusca parla di Mancino per la trattativa Stato-mafia, l'ex ministro replica vendetta di Riina, il boss cercò contatti con Berlusconi, Veltroni il premier riferisca. Erano cuochi, sarte, piccoli commercianti, hanno perso il lavoro diventando poveri, in attesa della casa che non arriverà mai, occupano un edificio. Sui manifesti linea dura della Lega contro i campi Rom, in separata sede il leghista Salvini ammette, è solo campagna elettorale. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Albertini, voglio sentire sempre Albertini. Sempre Albertini, per una settimana almeno. La patonza deve girare. Non è una frase nostra, ma dell'avvocato Agnelli a Berlusconi quando scoprirono di avere una donna in comune. La risposta fu molto semplice, fu molto secca. Oggi desterebbe scandalo, forse anche all'epoca avrebbe. Però non, queste cose non uscivano fuori, no? Negli anni 80, perché presumibilmente questo incontro avvenne negli anni 80, inizio degli anni 90, non uscivano fuori. Oggi si dice qualsiasi cosa. Chiunque ha il cellulare di Berlusconi, diciamo quelli. A proposito, Giordano, lei ci ha detto prima che per chiamare Berlusconi lei passa attraverso il centralino, giusto, di Arcore. Esattamente. Però c'è gente che ha il numero diretto di Berlusconi, come lei sa, no? Donne soprattutto, meno, si è scoperto la signora Polanco, ha quella detto che ha annunciato il poi un po' millanta, no? Alcuni millantano di averlo, in realtà non ce l'hanno. Non è un, non le desta nessuna invidia. No, peraltro devo dire la verità, il presidente Berlusconi è una persona che quando si lascia la chiamata chiama in tempi rapidissimi. Appunto, a parte la vigilia di Natale, c'è stato il Natale di mezzo, però in genere chiama in tempi molto rapidi, quindi no, c'è pochi, brevissimi tempi d'attesa. Sì, qui, qui la cosa è questa, non è un po' sconveniente, qui però è una domanda che dobbiamo rivolgere a un politico più che a un giornalista, a un direttore di una testata. Non è un po' sconveniente il fatto che il Presidente del Consiglio dia in giro il suo numero di telefonino? Urbi e torbi. No, urbi e torbi, insomma, persone che, anche, che magari non fanno lavori, come dire, istituzionali, eccetera, ad amici o amiche. Cioè, il Presidente del Consiglio, un Presidente del Consiglio può avere amici e amiche cui dà il numero di telefono privato? Ci mancherebbe, a libero telefonino in libero stato. Cioè, voglio dire, adesso lei mettiamo dice, anche a sindacare a chi uno dà il numero di telefonino. Il suo telefonino lo dà a chi vuole. Il suo telefonino lo dà a chi vuole. Il telefonino si commettono dei reati. Quello è un altro discorso. Ma adesso andare però a processare uno perché lascia il telefonino. No, il telefonino, però qualche filtro, non ci vorrebbe di più, qualche filtro. Ma, ma chi è che si può permettere di sindacare qual è un amico a cui lascia il telefonino per farsi chiamare? Il Presidente del Consiglio ha degli amici, delle amiche come tutti. Poi adesso si può sindacare anche a chi uno lascia il numero di telefono, mi sembra francamente eccessivo. Senta, ma tra le principali sanguisughe chi sono? Oltre, abbiamo detto, i vitalizi dei parlamentari sicuramente, alcune pensioni spropositate che si sono accumulate nel tempo per miliardi di procedure legislative. Ma poi, guarda, non ci sono solo i politici, che pure sono un capitolo rilevante, ci sono tantissimi manager, tantissimi banchieri. Ci sono le pensioni truffa, c'è un capitolo, per esempio, ci sono le baby pensioni, che è un capitolo, perché uno pensa alle baby pensioni, no, quelli che sono andati in pensione a 29 anni e 15 costanti. Ma non le avevano eliminate queste baby pensioni? Le hanno eliminate, non dappertutto, perché pensate che fra il 2003 e il 2010 in Sicilia, grazie a un'apposita legge, sono andate in pensione 1000 persone con età media intorno ai 50 anni, tra cui un segretario generale che a 47 anni ha preso 6.000 euro netti nell'estate 2009, 6.000 euro netti, quindi 11.000 euro lordi al mese, e dopo aver incassato questa pensione perché doveva accudire il padre, perché il meccanismo della legge è che bisogna accudire il padre, è diventato assessore. Figurati. Lasciando quindi il povero babbo probabilmente abbandonato, non so, perché se lo sarà portato in assessorato, se lo poteva portare anche nell'ufficio. No, adesso, per carità, ognuno anche qua è libero, però ecco, la baby pensione a 47 anni, 6.000 euro netti al mese, soprattutto estesi su un numero così vasto. Ci sono banchieri che sono andati in pensione a 44 anni e da 22 anni che prendono la pensione, che oggi ammonta a 18.000 euro al mese. Anche qua non fa tanto scandalo la cifra in sé, è che se uno da 22 anni prende una pensione del genere, evidentemente nella vita precedente un po' ha versato tanti contributi sufficienti a pagare, evidentemente c'è qualcun altro che versa. Non c'è dubbio. No? E quindi, visto, cioè, ci sono alcuni regimi più speciali degli altri, sì, no? Sì, certo, ma è un dedalo infernale. Siccome il mondo, io nessuno cambierà mai. Apro il libro dedicandolo ad un'anziana che ha una pensione sociale, quindi al minimo 400 euro, che si vede invece per una serie di cumuli nell'estate 2010 un assegno dall'INPS di 0,78 euro, quindi 78 centesimi, 78 centesimi di euro. Quindi tre rotoli di carta igienica praticamente si è comprata, cioè gli è arrivato un versamento di 78 centesimi. L'INPS, la pensione, sua pensione sociale 400 euro di quel mese era 78 centesimi di euro. Non è un caso isolato, perché quando ho raccontato questo mi sono arrivate altre lettere di altre. E perché quel mese era di 78 centesimi? Perché si caricavano alcune altre piccole rendite che lei aveva, e quindi si è andata a accumulare sulla pensione sociale. Allora io, quando vedo pensioni doppie, triple, quadruple che si accumulano senza nessuna detrazione, e sulla pensione di 400 euro si va a accumulare una roba di questo genere, io dico, forse quando si chiedono sacrifici ai cittadini bisogna avere chiaro intanto forse che ci sono delle altre persone su cui cominciare a fare qualche taglio, a chiedere qualche sacrificio. Allora, 800 24 00 24, questa è La Zanzara. Volevo chiedere ancora una cosa a Giordano, che era questa: quando lei andò via dal giornale, sempre per tornare alla vecchia questione, la macchina, chi sull'editoriale fango, che abbiamo qui. Però la questione è questa: lei andò via dal giornale perché non voleva fare certe cose che si disse che qualcuno voleva farle fare, articoli, per esempio la vicenda Boffo, eccetera, eccetera, oppure no? Io di Boffo non sapevo nulla. Io me ne andai via dal giornale perché venne nominato un altro direttore. Evidentemente in quel momento veniva ritenuto più importante per il giornale, aveva quel editore. Come io scrissi in quell'editoriale, io sarei rimasto, ero andato al giornale per rimanerci. Sì. per rimanerci molti anni e quindi ci andai via, come dire, malvolentieri, anche se sono andato a fare un lavoro straordinario, bellissimo, un'azienda. Chi la chiamò per andare via? Come media, mi chiamò Paolo Berlusconi. Paolo Berlusconi, che è l'editore del giornale, mi chiamò e mi disse che era intenzione nominare Vittorio Feltri. Da oggi al domani accadde. C'è proprio una doccia fredda. In tempi abbastanza rapidi. Sì, sì. Come al solito, la notizia era stata anticipata qualche ora prima da Dago Spia, e quindi io avevo chiesto notizie su questa cosa e mi fu detto: no, guarda, guarda. Ma secondo lei chiamò Paolo Berlusconi, ma fu una telefonata, come dire, ma per conto di qualcun altro oppure no? Questa se la preso oggi sei sul cuore, questo sinceramente non so, io so che scesi personalmente, non mi chiamò neanche, nel senso che scesi personalmente nell'ufficio di Paolo Berlusconi, dove mi fece questa comunicazione, e poi seguirono le altre cose, quindi venne nominato un altro direttore, per questo me ne andai. Evidentemente. Ma è vero che lei si era rifiutato di fare qualche cosa, qualche articolo, eccetera? È evidente che il clima, diciamo così, che il clima in cui era maturata la mia direzione, il progetto di giornale che avevamo messo in piedi appunto con l'editore, era molto diverso rispetto al clima che si respirava in quei momenti lì, cioè dopo l'esplosione del caso Noemi, eccetera, eccetera. Quindi cioè, che significa? Sì. Il clima era diverso. Il clima era assai diverso, nel senso, se voi ricordate il clima di Onna con il presidente del consiglio, col fazzoletto al collo dei partigiani, il clima di unità nazionale, quello era un clima. C'era un clima di guerra anche mediatica, giusto? Si scatenò un clima di guerra mediatica in cui evidentemente venne ritenuto necessario un giornale diverso rispetto a quello che avevamo poi più militarizzato. Però la mia risposta alla domanda: lei si rifiutò di fare qualche cosa o non ci fu nessun episodio in particolare? Non ci fu nessun episodio in particolare, ci fu, ripeto, un cambiamento di clima generale. Cioè quello che venne dopo lei l'avrebbe fatto, per esempio? La cosiddetta notizia di Boffo l'avrebbe pubblicata? Ma io credo, come dire, adesso io non lo so se avrei pubblicato quella, io non mi sono mai tirato indietro nel fare battaglie anche, come dire, a viso aperto, e quando ci sono le notizie pubblicare tutti i tipi di notizie, quindi io non so mettermi nei panni di un altro direttore, non so se avrei pubblicato o no, però sicuramente, come dire, il tipo di giornale che avevamo impostato con la redazione, con l'editore, era diverso rispetto a quello che è poi diventato il giornale. Per esempio una notizia come quella degli amori della Boccassini l'avrebbe pubblicato oppure un no? Po' datata quella lì, diciamo. leggermente datata. Diciamo che la notizia degli amori della Boccassini non è una di quelle notizie che rientrava nel progetto editoriale che noi avevamo impostato quando io sono andato al giornale. Capolavoro, una risposta da capolavoro. Progetti editoriali diversi. È così. Va bene, abbiamo la borsa 800 24 00 24. C'è la borsa, scusami, siamo alla radio sono delle 24 ore. Però c'è una logica. Che ore e sono? E chiederò a sono le 19. Mario 20. Giordano di restare altri 10 minuti. Sono le 19:29. Ma chi che compra la borsa? Ma sei pazzo? La radio solo la borsa di New York è aperta. Per favore, borsa, sono cose importanti, borsa. Siamo qui 19:35, 800 24 00 24. Qualche complottista, Pardi, Italia dei Valori, molti dubbi. Su cosa molti dubbi? Ancora ce li ha anche Giordano, per carità, che è lontano mille miglia, mille mondi da Pardi. Però, insomma, Pardi, sentiamo. Ci sono una quantità di dubbi che vengono anche confermati da queste notizie, le voci sulla collaborazione o meno dei servizi pakistani, la Clinton che dice una cosa e i generali che ne dicono un'altra. C'è chi dice dovevamo prenderlo vivo e c'è chi dice dovevamo ammazzarlo subito. E lì qualcuno ha detto l'ordine era ucciderlo, invece no, l'ordine era prenderlo. Allora mettetevi d'accordo, doveva essere preso o doveva essere ammazzato? Perché questo trasferimento del cadavere? E tutti i dubbi, per carità, legittimi, eccetera. Secondo me uno se lo può anche chiedere. La domanda, per esempio, è stato giusto ammazzarlo? No, la trovo ridicola. Cioè, si possono avere mille dubbi, ma non su Bin Laden, insomma, francamente, non su Bin Laden. Ve lo ricordate che col coso, no? Quel filmato famoso in cui fece la simulazione delle Torri Gemelle? Avrebbe trasformato il processo in uno show internazionale, avrebbe attratto Ma quale processo? Avrebbe trasformato l'uomo in un martire. Invece così l'abbiamo fatta finita in un paio d'ore e basta, no? Allora, ancora qualche minuto con noi Mario Giordano, sanguisughe, che dice lei di questa cosa di Bin Laden? Giusto ammazzarlo, detto, no? Giusto ammazzarlo. Però, diciamo, non è che mi sconvolge la morte, la scomparsa in mare rapida, così rapida, questa sì, per esempio, è una domanda, ma penso che sia legittimo farsi domande. Io non metto in dubbio che Bin Laden... Ho scoperto un Giordano dietrologo sull'uccisione di Bin Laden. Qualche domanda... Perché è stato distrutto quell'elicottero? Continuano a spiegare. Come perché? Pardi, Giordano come Pardi. Ah, Giordano come Pardi. Giordano come Pardi. Lei andrebbe a dirigere il TG1? Non credo che me lo offriranno mai, però sarebbe una poltrona assai prestigiosa. E sì. Minzolini lo fa bene? Minzolini lo fa. È già il fatto che ci pensi, ci pensa. Vabbè, ci pensa, non è che deve rispondere. Lo fa. Cioè, lo guarda lei TG1, sì, naturalmente. Io lo guardo professionalmente, guardo TG1, guardo TG5, guardo il TG della 7 di Mentana. TG giornali, noi dobbiamo andare. È troppo tutti. Legato a Palazzo Grazioli, secondo lei, TG1 oppure no? No, istituzionalmente TG1 è sempre legato, è sempre stato legato alla cosa di governo. Per cui, no, da quel punto di vista, no. Lei preferisce il TG della 7, però, commentare, no? Mi diceva prima. Io preferisco. Non è vero, non ho mai detto, questa è una cosa. Io professionalmente li guardo tutti. Credo Ma le piace Mentana alla 7? Mentana ha interpretato un'esigenza molto forte e l'ha fatta molto bene, la grande professionista qual è. Quindi è evidente. Cioè, se lei dovesse scegliere alle 8, adesso lasciamo perdere questo, Mario Giordano, utente. Se io sono a casa guardo il TG5. È molto istituzionale questa risposta. Molto istituzionale, è molto istituzionale, però è la verità. Se io sono a casa e devo guardare un telegiornale, guardo il TG5. E se alle 20 c'è il Torino? Se alle 20 c'è il Torino, guardo il Torino. Guarda il Torino, assolutamente, in ogni caso, sempre e comunque. Non guardo. Io per Torino perdo veramente la cognizione. 800240024, Michele da Brindisi. Anzi, no, prima abbiamo Roberto da Pavia. Buonasera. Pronto? Dica. Buonasera. Questa sera a prendere la sua trasmissione commentando le dichiarazioni di Berlusconi si è messo un po' a scherzare sui rapporti mafia e Berlusconi. Posso dire una cosa abbastanza politicamente scorretta, credo, poi non me ne frega niente di dichiararlo che è politicamente scorretta. A me di questa questione della mafia del 93 di Berlusconi non me ne frega assolutamente nulla. Non me ne frega niente. Però questo lo dichiaro, non me ne frega niente. Tanto come dire, sono cose che. Sì, adesso la fa la domanda, non si preoccupa, mi lasci parlare. È l'intemerata di Cruciani. No, per carità, cioè, un'intemerata sera me la faccia fare. Il direttorissimo si incazza. Allora, a me non me ne importa assolutamente nulla, perché tanto non si saprà mai nulla di certo. Mai, mai. Prego. Ok, grazie. Lei sa benissimo che Mangano, lo stagliere, ha avuto una sentenza. A ridaglio con Mangano adesso. No, sì. No, adesso attacchiamo con Mangano le cose, lo stagliere di Arcore, che è mafioso, dell'Utri. Ha uno stagliere mafioso condannato. No, io non ho case con stalle, dunque non posso avere stallieri. Condannato in secondo grado. Vabbè, adesso ricordiamo dell'Utri condannato, lo stagliere di Arcore, Mangano e tutto. Lo ricordi lei, sembra che io non voglio ricordare queste cose. Lo ricordi lei, cosa c'entra oggi questa cosa qui, ma comunque lo ricordi lei. Lei l'ha commentato quando è stata la trasmissione, dicendo sì, brusca dichiarazione. Ma non lo so, una dichiarazione di brusca, peraltro non è che mi sembra che non vadano nemmeno in direzione contraria a Berlusconi, tra l'altro, mi sembra di capire, non così non ho approfondito molto. Cioè ci voleva dire, lei ci voleva ripetere le cose che abbiamo già sentito da 15 anni, cioè Berlusconi e i legami con la mafia, benissimo. Saranno serie, benissimo, lei ci voleva ripetere, al di là di quello che ha detto oggi Brusca, le cose su Berlusconi, Mangano, dell'Utri, eccetera. Lei ha parlato di Brusca, di Brusca, di Mangano, io ho voluto sottolineare. Vabbè, ci voleva ricordare Mangano, vabbè. Berlusconi, dell'Utri, eccetera. Esatto. Benissimo, vabbè. Moreno dalla provincia di Padova, buonasera. Caro Moreno, allora. Pronti, eccolo qua. Dica. Volevo confutarle quel discorso sul primo maggio. Il primo maggio è passato ormai. Non assolutamente lavoro per qualcuno, perché... Accidenti, dopo aver sentito Giordano uno si arrabbia. Ma che c'entra? Che ha detto Giordano? Giordano ha fatto evidenziare come in Italia ci sia qualcuno che sia migliore degli altri. Chi l'ha detto? No, chi ha detto che qualcuno migliore degli altri? Giordano ha evidenziato come Amato, come qualcuno riceve delle pensioni in maniera estremamente, diciamo, superiore alla media, ecco, posso dirlo questa. È un po' sì. Ah, in questo senso, sì. Sì, anche perché le Ma che c'entra questo col primo maggio? No, scusi, non collego. Ecco, il collegamento non è diciamo, non è immediato, sempre di lavoro immediato. Si tratta. Mi consente di dire che il primo maggio è un simbolo, una festività, una festa simbolo, secondo me. Sì, allora per una provocazione, e posso assicurare che secondo me è una provocazione, potremmo dire che Natale insomma, è nato un bambino, che a Pasqua è morto uno, ma quindi... Sì, scusi, va benissimo. Se devo anche vuole, dire che prima di intervenire alla radio non bisogna bere, però, cioè, diciamo anche questo. No, non sono savio, sono savio. Scusi, Moreno, scusi un attimo, però io voglio dire, va benissimo questo ragionamento, sarà un simbolo. Però se uno, no, però se uno vuole lavorare il primo maggio, desidera aprire il proprio negozio, ma vuole, aprire un negozio, cioè, perché non lo può fare? A me questo mi risulta, insomma, incomprensibile, francamente, o no? Per cui se il sindaco Renzi, che giustamente... Dove di Natale lei lavora? Lavoro, ma non guardi, a parte che qualche volta ho lavorato il giorno di... Mi è capitato in vita mia di lavorare il giorno di Natale. Qualcuno lavora il giorno di Natale. In televisione c'è un sacco di gente che lavora. Non è che la televisione va al monoscopio lì, non è che in televisione sparisce, va a nero. C'è gente che lavora, eh? Non solo in televisione. I ferrotranvieri, gli ospedali. Appunto, gli ospedali, eccetera. Allora, indubbiamente, però quello che mi dà fastidio, mi consenta, mi dà fastidio, è questo attacco, diciamo, questa volere sgretolare anche gli ultimi simboli di una festività legata appunto. Ma nessuno li vuole sgretolare, cioè, nessuno li vuole sgretolare. Il sindaco Renzi e poi altri in altri comuni cosa hanno detto? Hanno detto una cosa molto semplice, cioè se uno vuole rimanere aperto può tranquillamente rimanere aperto, anzi bisogna favorire il fatto che il primo maggio, che è un giorno di festa, la gente è in vacanza, può anche andare a fare shopping nei negozi. Mi sembra una cosa abbastanza naturale, logica, non è un dramma. Qui il dramma l'ha fatto il capo della CGIL, cioè, perché giustamente deve difendere un fortino che è il solito fortino. Lei quanti giorni all'anno lavora, caro Giordano? Ma io lavoro. Lei è un gran lavoratore. Si alza a che ora si alza? Lei è uno di quelli che si alza alle 5 di mattina, alle 6? Alle 5 e mezza ogni mattina. Cosa fa? Cosa pazzesca, alle 5 e mezza. Vado in redazione. Alle 7 arriva. Alle 6 e mezza, quanto alle 7. Berlusconi a che ora chiama? Non mi chiama. Chiama alle 7 e mezza. Dichiariamo di chiamarmi qualche volta in più, facciamo un appello. Berlusconi, chiami Giordano ogni tanto, gli dica qualcosa, se sbaglia, non sbaglia, eccetera. Vabbè. Sì, vado lì presto, abbiamo la prima riunione alle 8:30 e voglio aver già letto i giornali. E esce a che ora? Ah, dipende dalle sere, dipende. Comunque sempre dopo le 8. Lavora sempre. Se questo è pazzesco. Lavora sempre meglio che lavorare. Certo, no? Senta, che succederà nella televisione italiana quando Berlusconi uscirà di scena dalla politica? Perché secondo lei quando esce in scena dalla politica? Questo nessuno lo sa dire. Secondo nessuno me troppe volte, troppo presto è stato dato per morto. Succederà una rivoluzione anche in televisione o tutto resterà uguale secondo lei? No, secondo me la rivoluzione della televisione è già in atto. Sta già cambiando la televisione con la moltiplicazione dei canali. Ma lei per esempio si sentirà più libero senza Berlusconi in politica oppure no? Io credo che chi ti do un'altra risposta diplomatica, ma io credo che Mediaset abbia mostrato che chi lavora a Mediaset si sente sostanzialmente libero da sempre, quindi non credo che cambierà, tanto più oggi che c'è una moltiplicazione, diciamo, di canali, di mezzi di comunicazione straordinari. Cioè la rivoluzione è già in atto, non dipende da Berlusconi. Ogni tanto noi siamo anche un po', come dire, mi sembra Berlusconi, diciamo, cioè vediamo tutto il mondo come se ruotasse. Il grande cambiamento della televisione c'è, sta cambiando tutto. Poi meglio il Berlusconi editore che non il Berlusconi politico. Cioè il Berlusconi editore è stato un Berlusconi liberale che ha introdotto mercato, idee, concorrenza. Il Berlusconi politico ha arrancato. So se sottoscrive questa cosa. Meglio Berlusconi editore o politico? Il Berlusconi politico ha incontrato molto più difficoltà a realizzare i suoi progetti. Questo è indiscutibile. Dunque meglio il editore che politico. Diciamo che dal punto di vista imprenditoriale quello che ha realizzato è stato straordinario. Quando è arrivato in politica si è scontrato con difficoltà oggettive a realizzare il principale difetto di Berlusconi qual è? Ma no, Berlusconi ha tantissimi difetti, però io non è che lo conosca poi così bene. Uno, il principale, i suoi difetti è troppo personali. Buono, in genere dicono tutti che è troppo buono. Grazie a Mario Giordano. Grazie. Vi faccio sentire in uscita Mario Giordano quello che ha detto Gasparri su Bin Laden. Lo voglio sentire assolutamente, me l'ero scordato. Diciamo anche il prezzo del libro. Eccolo qua. La voce bianca. Gasparri su Bin Laden, 5 novembre 2008, dopo l'elezione di su Bin Laden, su Obama. Senatore Gasparri, che cosa può cambiare secondo lei con l'elezione di Obama alla guida degli Stati Uniti? Sul piano della lotta al terrorismo internazionale dovremmo vedere Obama alla prova. Su Obama gravano molti interrogativi. Con Obama alla Casa Bianca Al Qaeda forse è più contenta. Eccoci qui, hai sentito Gasparri? Sì. Gasparri. Ma Gasparri è Gasparri. 5 novembre del 2008 disse: Cosa disse? Obama, che gli islamici, il terrorismo, sì, i terroristi, Al-Qaeda, no? Al-Qaeda, il governo, no? Al-Qaeda sarà contenta dell'elezione di Obama. Sì. Gasparre. Bisognerebbe rimandarlo continuamente. Questa idea che tu hai sempre di rimandare i pezzi, l'archivio, è un'idea a saggio, cioè questo è un format vincente. Ma, oggi ci viene a trovare un sacco di gente, perché sì, adesso fra poco presenteremo un altro ospite, però abbiamo anche uno dei nostri gruppi preferiti, che sono anche gli autori di questa canzone che stai ascoltando. I Ridillo? Ci sono anche i Ridillo. E dove sono? Ne sono qua fuori, dopo verranno, c'è dove tempo. Sono c'è i Ridillo? Tempo. Eccolo, Benji, qui Ridillo, fuori dal vetro. Ma sono Benji. Sì, tu non c'eri quando sono venuti, non c'eri quando sono venuti. Manfredi Palmeri, buonasera. Buonasera, ecco, come sta? Come sta? Candidato del terzo polo esclusivo, parla Palmeri. Ma perché esclusivo? Esclusivo parla da tutte le parti. Cioè, è normale, fa la campagna elettorale. Che deve fare? Vabbè, ascolta la zanzara. La notizia. Uno dei rari casi di candidati che ascolta. Cioè, candidato che ascolta la zanzara. È incredibile. Ascolta, cioè, la zanzara e ascolto anche i milanesi. Ascolta i milanesi, vabbè, quello. Savà. Però Messina elettorale. Senta, sgomiamo subito il campo. Subito la cosa. Mi ritiro la candidatura. Se lei dovesse, è un caso naturalmente molto difficile, però non è mai detto, no? Sì. Cioè, lei, se dovesse diventare sindaco, no? Sì. Lei si candida a fare il sindaco, immagino, certo, no? Cioè, dunque vuole diventare sindaco. Certo. Quante probabilità si dà di diventare sindaco? 50%? Sì. Addirittura. 50, addirittura 50, divento, cioè, 50 non lo divento. Vabbè, ma quella è la probabilità che... Vabbè, adesso lasciamo perdere le probabilità, perché è normale, perché siamo, come dire, il 3 maggio, oggi che è il 3 maggio, sì, e sì, insomma, le elezioni 15, non è che uno può dire... Ma, insomma, però sì, lasciamo perdere i sondaggi e tutto il resto. Però la cosa è questa. Una cosa, la prima cosa che farebbe a Milano. La prima cosa, primo atto. Che atto da sindaco. Prendo la carta. Primo atto da sindaco. Un atto simbolico. La bandiera italiana su Montestella, che è il punto più alto di Milano. Anche simbolico. Si incazzerebbero come bestie. Mi spiace, ma la bandiera è la bandiera, cioè, di tutti, la bandiera è la nostra. La prima cosa, che un atto, sì, formale, naturalmente. Simbolico, un atto simbolico. La bandiera su Montestella in alto, sì, una bandiera enorme metterebbe. La bandiera visibile. La bandiera italiana, insomma. Bandiera italiana visibile. Visibile là. Bandierone, sì, enorme. Sì, Salvini, il problema, nostro amico Salvini impazzirebbe per una cosa, cioè, diventerebbe pazzo. Il problema, c'era chi voterà Letizia Moratti e avrà magari qualche leghista che la bandiera la tira giù. Quindi la prima. Senta, lei, mi dicono, è cresciuto alla scuola di Dell'Utri, quindi è passato da Dell'Utri a Rutelli. Non era molto vicino a Dell'Utri in una fase, all'inizio della sua carriera politica. Beh, sì, adesso, no, questo non si può negare. Io ho fatto il rappresentante degli studenti in Bocconi. In area ai liberale circoli, abbiamo collaborato con i circoli di Marcello Dell'Utri, come con tanti altri circoli di area liberale, insomma, credo che siano altri vicini a Dell'Utri, no? No, ma anche non io, insomma. Ma no, ma in passato è stato un po' un passato, suo pupillo, no, era considerato o no? No, non lo so, ero considerato una cosa, essere un rinnega Dell'Utri, come possibile? No, non è che rinnego io l'amicizia, lei stima Dell'Utri, sì. No, io dico che secondo me, insomma, io rispetto le sentenze, quindi c'è una sentenza che dice alcune cose, certamente è possibile che ci siano stati nei suoi confronti dei passaggi che magari, insomma, ci sono delle parti della storia di questo paese che vanno chiarite, e chiarendole si può capire cosa è successo, insomma. No, quello d'accordo, però Dell'Utri è stata una persona importante nel suo percorso politico, o no? No. No, non particolarmente. Chi è stata la persona più importante? È giovane, ha 37 anni. Ha iniziato a fare politica. Un fan prodigi della politica, lei. Chi è stato l'uomo più che l'ha scoperta? Che l'ha scoperta? Ma non ha scoperto nessuno. Guarda, David, io ho cominciato dal marciapiede. Veramente dal marciapiede ho cominciato a fare attività politica. Quindi il gioco dei padroni e dei padrini, sinceramente, può essere fatto con altri, perché io ho lavorato tanto per fare quello che ho fatto, non per essere quello che sono, perché sono un ragazzo non molto diverso da quelli che ho accanto adesso e non molto diverso da quelli che ci stanno ascoltando. Quindi è chiaro che quando si raggiungono dei risultati, ma i risultati non è la carica che va e che viene, i risultati sono lavorare per il bene della comunità. Qualcuno dice c'è un padrino, c'è un padrone. Io non ne ho avuti, né ne voglio avere, né ne ho. Io sono cresciuto per dire, questo è importante, nel senso che io ho cominciato facendo il rappresentante degli studenti a scuola, poi rappresentante degli studenti in università. Poi ho cominciato a, poi sono stato eletto in consiglio comunale e, come dire, ho lavorato senza, tra l'altro, senza avere supporto e aiuto. Ho anche raddoppiato le mie preferenze dopo 5 anni. Quindi voglio dire, il grazie lo dico. Lei ha presieduto, Palmieri, sì, ha presieduto tutte le sedute del consiglio comunale, tutte, credo, non è mancato alcuno. Mai, sbaglio, neanche a uno. No, neanche uno. Come mai? Perché è giusto, è uno serio, non è il massimo, è il minimo da fare quando uno prende un impegno. Io presiedo partecipato le sedute dei consigli con una noia, persona seria, a tutte le votazioni, seria, no, scherzo, naturalmente. Questo si può testimoniare, è serio. Sì. Va bene, 800 24 00 24. Qualche ascoltatore, poi torniamo con Manfredi Palmieri, che lo ricordo è candidato per il terzo polo alla carica di sindaco di Milano. Insieme sta a fare vedere i sorci verdi, dici? In che senso? La signora Moratti gli sta a fare vedere i sorci verdi, cioè la obbliga al ballottaggio, dici? La obbliga al ballottaggio, ma tu lo dici con una certa perfidia. No. Ecco, questo non vorrei che si, non vorrei che si dica mai, punto esclamativo. Tu speri che, di la verità, tu speri che si arrivi al ballottaggio, Parenzo, tu speri che spero solo. Spero solo. Speri anche che la Moratti perda, perché tu sei. No, perché sono comune. No, mica per quello. Ma io non è che. Io ho detto, a me Albertini mi sta simpaticissimo. Scopriamo il campo anche da domanda. Facciamo la domanda delle domande, per me, la domanda delle domande. Diciamo che è possibile che lei non ci sia al ballottaggio. È possibile. È possibile, no, è una possibilità. Se al ballottaggio, tanto poi sappiamo come rispondere. Comunque, però bisogna farla. Bisogna farla. Se si va al ballottaggio tra la signora Moratti e il signor Pisapia, lei che cosa fa? Il signor Manfredi Palmieri, nel segreto dell'urna, vota Pisapia. Io mi intristisco molto, perché ci sarebbe metà Milano che, se fa il sindaco Moratti, non dormirà la notte, e metà Milano che, se il sindaco lo farà Pisapia, non dormirà la notte. E quindi mi intristisco molto. Un apocalisse. Oltre al fatto di intristirsi, è d'accordo, perché non a me è sono giusto. Due proposte politiche lontane da me, io sono alternativo a entrambe. Ma lei è stato presidente del consiglio comunale del PDL, cioè non della... Non del PDL, il presidente è del consiglio comunale. Sì, d'accordo, non è però PDL. È eletto. Non è che è stato eletto per lo Spirito Santo, insomma. Sì, però il presidente del consiglio comunale fa il presidente del consiglio comunale. No, d'accordo, però lei è stato nel PDL fino a pochi mesi fa, dunque dal punto di vista istituzionale ieri in aula guardavo al PD, guardavo al PDL esattamente allo stesso modo. Sarebbe stato gravissimo che il presidente del consiglio comunale fosse l'espressione della maggioranza, condizionando i lavori ma sulla lei base darà indicazioni di voto se non dovesse arrivare al ballottaggio? Non darò indicazioni di voto. Non darà indicazioni di voto. Sto dicendo non credo. Non credo perché ancora non ci siamo. Credo perché il signor Urso, cioè tra Pisapia e Moratti, no, sono due mali per Milano. Due mali per Milano. Finalmente Parenzo ha trovato il titolo che aveva aperto, adesso l'ha chiuso. Questo è bello. Due mali per Milano. Due pali, no, è un'altra cosa. Che dicevi, no? Sei Urso? No, sì, qua perché Urso, il signor qui Urso, la Zanzara, qui la Zanzara disse una cosa molto esplicita. Me lo ricordo, appartiene al suo partito. Quella trasmissione l'ho sentito. Appartiene al suo partito, no, Urso? Sì, Urso, sì. Urso, Futura Libertà come lei. A Milano. Che a Milano non si candida, perché noi abbiamo, no, volevo ricordare. Sì, no, certo, facciamo no, parte di un. Però è un dirigente nazionale importante. Certo. Ha detto: se si dovesse arrivare al secondo turno, io darei l'indicazione di votare Letizia Moratti. Lei si turerebbe il naso e voterebbe Letizia Moratti, o mai voterebbe Letizia Moratti? Innanzitutto, la mia candidatura serve proprio a non far turare il naso ai milanesi, perché a Milano un'alternativa c'è, ed è l'alternativa a Moratti, un'alternativa a Pisapia, un'alternativa a tutte e due messi insieme, e anche un'alternativa all'astensione. Quindi sono qui proprio per non far turare il naso. Detto questo, è chiaro che, come Urso si tura il naso e andrà a votare, altri milanesi magari si turano il naso e andrà a votare, e questa è la prova provata che il ballottaggio tra Moratti e Pisapia è un ballottaggio che non fa bene a Milano. D'accordo, quindi però possono convergere questo, al primo turno. La Moratti non la voterebbe mai al secondo turno? Io non credo che io mi sto candidando per vincere. E quindi mettiamo che lei la voterebbe Moratti. Ma o no? Secondo me non voterei né Moratti né Pisapia. Ah, secondo non va a turno. Votare. Non va a votare. Secondo me non andrei a votare. Non ho detto non vado a votare. Se dovesse accadere, non andrei a votare. Non andrei a votare. Va bene. Pubblicità 800 24 00 24. Abbiamo l'autore di questa canzone che state ascoltando qui di fronte, dietro il vetro, e sono anche un po' così, no? Lo Zanzara Party dei Ridillo, che ci accompagna ormai da mesi. Ho qui il signor Ridillo. Il signor Ridillo. Ridillo. Ma che è il Ridillo? Cioè, dillo ancora. Ma tu dire. Non c'eri quel giorno, dunque non sei fuori causa. Accanto a noi oggi, qui alla Zanzara, 800 24 00 24, Manfredi Palmieri, candidato del terzo polo. sindaco di Milano. Però non c'è dubbio, Palmieri, che questa storia della scelta al secondo turno, che è, capisco, fastidiosa per chi si candida. No, per me posso dire una cosa? Per me la domanda non è fastidiosa, per una ragione. Ma è normale che... Perché? No, ma sai perché non è fastidiosa? Perché fino a qualche settimana fa c'era la mitologia di una partita che avrebbe visto il risultato a primo turno, e invece scontato. Adesso, appunto, cioè adesso lei godrebbe invece, a far perdere la Moratti, per esempio? No, una cosa, no, no, una goduria tremenda, no, oppure no, no? Ma neanche a vincere godrei. Diciamo che mi candido per vincere. Però quello che dicevo prima, cioè un ballottaggio Moratti e Pisapia. Ecco, i suoi elettori cosa le dicono? Ma i miei elettori non sono un corpus. No, unico, vabbè, parlo con i cittadini. Io ricordo loro che poi saranno loro ad andare a votare al secondo turno. Quindi, ad esempio, prima mi avevate chiesto cosa faresti, ma non mi viene adesso di dire di votare per uno o per l'altro. Probabilmente ascolterei cosa dicono e poi deciderei e magari non andrei... Non è che cambiano tra il primo e il secondo turno nel loro... Beh, però secondo me i risultati del primo turno magari fanno aprire degli spazi di riflessione. Ecco, le persone che sentono, i suoi elettori, le persone che sente, sono più... Sono moltissimi quelli che non vogliono la Moratti. Sono moltissimi quelli che non vogliono la Moratti. E perché? Che le dicono? Che le dicono? Che vabbè, che dicono, che hanno installato male la città, no, eccetera, sì, eccetera. No, è giusto, ma dicono diverse cose, però una è sicuramente quella che ho detto, che non è stata presente in questi 5 anni, eccetera, beh, eccetera. Anche voi che non si è vista sul territorio, si vede che anche voi, no, io sto cercando di interpretare quelli che sono gli umori dei suoi elettori, non dico niente, io non posso esprimermi, io farò una dichiarazione di voto, la farò, la farai? Sì, la farò, per forza la farò, venerdì la farò, a venerdì Cruciani farà venerdì prima delle elezioni, attenzione popolo della Zanzara, dichiarazione di voto, popolo della Zanzara, sarei un ipocrita, il venerdì prima farai le elezioni, io farò la mia rischi di far spostare voti. No, non credo che farò spostare voti, non credo proprio, sì, però so. Farò la mia dichiarazione di voto, come è giusto che sia. Faccio anch'io la dichiarazione di voto? No, tu non vuoi dare nessuna voto a Milano. Non puoi quello a Milano. Che posso parlare a Milano. Esatto, perché sono un allora, city abbiamo user. Allora, abbiamo preparato per il signor Palmieri, ma questo lo sottoporremo anche a tutti gli altri candidati di sindaco, un piccolo test. Quiz. Un piccolo verranno test. Gli altri, posso chiedervi se li avete invitati? Sì, certo, verranno gli altri. Allora, piccolo quiz. Sì. Chi è il primo sindaco di Milano dopo la Liberazione? Chi è stato? Come Antonio si Greppi. Antonio Caspita. Greppi. Fuori una. Bravo, fuori una. Naturalmente per gli altri non è che saranno uguali le domande, non posso. Se no questi ascoltano e pigliano appunti. Nel 1906. Non è che ci ha visto le domande prima che eravamo qua. No. Ma posso dire che io ogni 25 aprile dedico un pensiero a questo grandissimo uomo, Antonio Greppi, che è... Preparato, perché è di Palermo. No, posso dirti. Nato a Palermo? Io sai perché sono... assolutamente milanese, perché sono per metà milanese, da metà di mia mamma, come il 50% di milanese, e per metà non milanese come il restante 50%. Nato a? Sono nato a Palermo. Nato a Palermo, sì. 37 anni fa. Quindi sono assolutamente milanese. Venuto a Milano metà, quando? Metà. A che età? A 19 anni. A 19, però non ha molto l'accento palermitano. Beh, un po' sì. Dica qualcosa in palermitano, ci dico qualcosa. Dimmi che non lo parlo molto bene in diretta. Andiamo, se tu dici una cosa, andiamo a giocare. Amuninne a Giucari. Amuninne a Giucari, sono meglio io, ho abitato in Sicilia 5 anni. Sai meglio tu. Allora, quando è stato il precedente Expo a Milano? Che anno? Nel 1906. Preparatissima, una cosa pazzesca. O sono domande talmente stupide, può darsi. Caspita. Non credo. L'architetto che ha progettato il Teatro alla Scala. Chi è? Pier Marini. Bravo. Cosa pazzesca. Giusto. Le 5 giornate cinque di Milano. Da quando si svolsero le 5 giornate di Milano? Dal 18 al 22 marzo. No, perché? Una cosa pazzesca. Dal 18 al 22 marzo del... Aspetta, devo scrivere. 1848. Sì, sì, 1948 è quello che hanno scritto dal 18 e quindi al 22 non l'ha visto. Marzo 1848 e quindi non l'ha visto. Ah, 1848. Giusto. Ma allora, ha detto anche i giorni, quindi questo vabbè. Lei ha detto anche i giorni, sì. Dunque 4 su 4 per adesso, è una cosa pazzesca. Lei è interista, si ricorda la Moratti, sentiamo la Moratti sul 1908, adesso le faccio un regalo. Guarda, purtroppo lo so, non me la fate risentire. Mi fate il ridillo sulla Moratti. Un Ambrogino che ricordava una storia gloriosa, una storia nata nel marzo, tra l'altro proprio nel marzo del 1909, in un 1809, in un... Non infieriamo, non infieriamo. Vabbè, la data la sa, ma il primo presidente dell'Inter, che, come si chiama? Paramitiotti. Paramitiotti, sì. Vabbè, qui non abbiamo fatto domande, domande scarsine. Quanto costa? La formazione della grande Inter, la formazione della grande Inter. Quella non la so. Scusa, posso dire una cosa? Allora, una domanda l'attacco, fatta. L'attacco della grande Inter, sì, l'attacco, solo l'attacco. Corso fonte Jair, sito ufficiale dell'Inter, sì. Corso Jair, posso dire che questa domanda fatta adesso, sì, dopo lo scorso anno, per me grande Inter, cioè no, ti dico, detto due anni però fa, corso, è Jair, chiaro che bene. Ci concentriamo allora, su quello. Facciamo su 11 almeno 5. Corso pari, Jair Pere. Corso Jair, no, Pere non c'è, sul sito della grande Inter c'è un altro. Sì. Allora 5 giocatori, almeno 5 giocatori. 5 giocatori. Facchetti, okay. Sì. Mazzola. Sì. Sì. Vabbè, Jair l'ha detto, Corso l'ha detto, 4, manca uno. Jair, Mazzola. Ne manca uno, forse. Corso, Jair, Facchetti. Corso, Facchetti. E io sono ormai vittima di Madrid, quindi è chiaro che... Niente, non le viene? Aspetta. Facile, dai. Quando parli di portiere. Sarti. 5. Va bene, allora, aspetta, Burnic, ok? Allora Sarti, Burnic, Facchetti, poi tutti vuol dire. No, ok, dai, li ho detti. L'ha detto. Quanti chilometri di pista ciclabile a Milano? Vere o finte, perché il dato dei lavorati non sono molto veritieri. Più di diciamo 70, pista... più di 70 o meno. Allora, sono sulla carta più di 70, nella cioè realtà quante? Meno di 70, ma non so, saranno 160 il numero di chilometri. Ma posso dire fonte, che questa non è... Fonte ufficiale Comune di Milano. Appunto per quello. Beh, ce ne deve essere cioè lei dice che taroccano i dati. No, io dico che chi va in bicicletta sa che una pista ciclabile è tale se c'è un'idea di continuità. Ma facciamo passare lo spezzatino. Questa è un po' da campagna elettorale. Questa, quindi, ma è vera. Però questa la cosa... Quindi lei dice che cosa c'è scritto sul Comune? 78. Quindi il sito del Comune di Milano è taroccato. Posso dire questo. La risposta però anche questa... Percentuale di raccolta differenziata a Milano. Percentuale di raccolta differenziata. Percentuale di raccolta. Sì, quanta è la raccolta differenziata a Milano? E quanta magari anche a Napoli? 70? No, 34. No, molto bassa. Posso molto che fonte ufficio stampa. Scusami, stavo dicendo 34. 34. Ti giuro che stavo dicendo 34. No, adesso però è come a scuola, cioè, ti giuro che la sapevo. Ti giuro che la sapevo. No, stavo dicendo 34. Però la raccolta differenziata è 70. 34%. 34, perché tu dici 70 la raccolta. Scusate. Che succede? Non sento più niente. Non sente più nulla, va bene. Pubblicità, no, non senti più. No, adesso rimettiamo a posto tutto. Quanto costa l'abbonamento mensile all'autobus? L'abbonamento mensile è 25. Sì. 30. Scusami, 30, sento malissimo. 30, cioè, 30. Pubblicità, torniamo subito. Bene, siamo di nuovo in diretta qui alla Zanzara, 20 11 800 24 00 24. Abbiamo risolto i problemi di cuffia di Manfredi Palmieri, candidato... Non i problemi di Manfredi Palmieri, Manfredi, i problemi di cuffia. Di cuffia, cioè, che non dipendevano da Manfredi Palmieri. Palmieri non ha problemi. No, li ho. Senta, ma con Rutelli lei si trova a disagio, no? No, perché? No. Così, domanda. Perché? Domanda, essendo stato, come dire, un suo avversario politico in teoria, no? Suo, sì, in particolare, no, ma insomma. Sta cambiando il mondo. Sì. Cambiano anche queste cose. E con la sua compagna si trova a disagio, che è ancora consigliere comunale del PDL? Lui è ancora? No, non è consigliere comunale. Non è più consigliere comunale? Lo è stata. Ma non mi trovo a disagio, altrimenti non sarebbe politicamente. Chi voterà? Lei voterà. Magari la mia compagna. Non lo so. Io devo dire che avendo come... Qualcuno dei presenti lo sa, insomma, avendo una situazione familiare non agevolissima, perché abbiamo in totale due figli, tre figli, cinque. Tutti insieme, vivete in sette a casa, no? No, io la mia casa, però è chiaro che da quando sono nate le due bambine piccole cerco di essere quanto più possibile nella casa dove sta Maddalena, che è la mia compagna, con gli altri bambini, quindi sono cinque bambini e un gatto, ecco, quindi... Candidato perfetto per la chiesa, dicevo, per la chiesa. Posso aggiungere questo, quindi diciamo che abbiamo poco tempo... in cui possiamo stare insieme, e quando siamo insieme ovviamente parliamo delle cose di famiglia, però magari, non lo so, gliel'ho chiesto, magari posso lanciare un appello a Maddalena di fare il voto disgiunto. Lei può votare PDL e votare per me, perché io penso il voto che lei disgiunto, potrebbe votare direttamente. Scusate, perché ci sono dubbi sul fatto che la sua compagna, pur essendo stata perché PDL, lei, eccetera, voti per il terzo polo e poi anche perché negli ultimi mesi so che ha frequentato delle riunioni, degli incontri, cioè del ancora PDL. È ancora del PDL la sua compagna? No, non è che dai volantini per l'amorato, cioè, questa storia è strepitosa. No, di questa cosa francamente, qui? Francamente, assolutamente. No, perché secondo me è giusto così, nel senso che almeno c'è una regola che quando siamo a casa cerchiamo di parlare dei nostri bambini e delle cose che ci sono da fare in famiglia, quindi non abbiamo parlato, però utilizzo la Zanzara per rivolgere a lei un appello. Cara Maddalena, dato che non parliamo di politica a casa, lo facciamo per interposta persona qui alla Zanzara. Lo facciamo attraverso la Zanzara. Attraverso la Zanzara. Siamo gente, non ci ascolta nessuno, quindi se avrai intenzione sulla base delle tue iniziative, della tua partecipazione a qualche iniziativa degli ultimi mesi del PDL, di votare il PDL, ricordati di votare me come sindaco, perché è possibile. Dunque, il voto disgiunto alla compagna Maddalena, come fai di cognome che non mi ricordo? Di Mauro. Maddalena Di Mauro. Se ha intenzione di votare PDL come sembra, perché ha partecipato alle riunioni, non gliene ho parlato, però ce l'ha confermato lei, ma le riunioni del PDL è inutile fare così. Voterà PDL, la compagna, ricordati di votare anche votami come sindaco. Una cosa pazzesca, dramma in casa Palmieri. Ma lei non gli ha chiesto, scusi, ma non gliel'ha chiesto votami, non gliel'ha detto almeno votami. Ma come no? Gli avrà detto amami, non votami. Anche votami, scusi, ma è un caso, credo che sia l'unico caso in cui la compagna non vota per il suo compagno. È la modernità, ma non è la modernità, è che la signora ho detto che non glielo ho chiesto, io confido che lo faccia, che voti per me. Però capito, comunque appello dalla Zanzara, appello alla compagna. Si ha fatto l'appello, vuol dire che non è scontato, questa è la notizia. Non è scontato. Non è scontato perché non abbiamo parlato e non ne riparleremo fino al voto, quindi questa sarà l'unica. No, non è possibile, non ci coglioni. Questo non ci credo, questo non ci credo. Non ne parlo perché se ne parlate litigate? No, perché ecco, ma cosa le ha detto? Vogliamo e dobbiamo parlare d'altro. Quando lei ha lasciato il PDL, cosa le ha detto? A questo sei un pazzo, sei un temerario. Dove vai? Mi ha detto: sei sicuro? E poi mi ha detto: però posso dire che addirittura alcuni giornali ne parlavano ancora prima che io lo facessi. Quindi insomma, sa come la penso. Vabbè, però cosa le ha detto? Visto che lei è rimasta del PDL, che cosa le ha detto? No, mi ha detto: sei sicuro? Appunto. Io ho detto: sì. Sta a fare una cazzata. No. Ripeto, a casa proprio non si parla una regola, ma non è una regola, aveva paura che fosse un salto nel buio, gli ha detto veramente parliamo d'altro, perché non noi, se volete possiamo continuare a parlarne, nel senso io a casa non parla di politica. Comunque l'appello, c'è stato l'appello. Io riesco a stare. La notizia è questa. Votami, ti prego, amore, votami. Madda, la chiama Madda o Maddalena? Maddalena, ti prego, amore, votami. La chiamo Maddalena. Madda anche in momenti magari. Lo faccio l'appello ufficiale. Ma l'ho fatto prima. Ho già detto, Maddalena, se avrai sei maturato la decisione di votare per il PDL, com'è possibile, dato che so che... Ma è troppo complicato, non è che è un pippone, 30 secondi, Marda, virgola, amore, votami, questo è... Chiedo scusa se ho messo in bocca delle parole. Ma vanno benissimo. Chiediamo scusa. No, vanno benissimo, però insomma, qui alla radio dico, Maddalena... Tesoro. Almeno questo, almeno Amoruccio, dico qualcosa. Allora, sapete perché sto ridendo? Perché quando lo chiamo, diventato... ma adesso la chiamiamo, la dobbiamo chiamare per forza. Sì, no, quando... prima l'appello, no, prima l'appello. Questo, sapete, rido perché quando la chiamo amore, la nostra bimba che si chiama Carola dice: tu devi chiamare amore la tua mamma, non la mia mamma, dice la piccola. Momento di tenerezza. L'appello lo faccio. Maddalena, hai deciso di votare PDL, ricordati che puoi votare per me perché c'è il voto disgiunto. Una cosa quindi ricordati. L'amore che insieme al voto disgiunto. Allora posso fare una sintesi? L'amore congiunge, il voto disgiunge. Questa è buona, questa è buona, questa è buona. Grazie. Benji, vai tu. Zanzara Party! Senza niente, senza chitarra, senza non nulla. Non ho ancora le cuffie, grandissimo. Ma adesso arriva. Eccoci qui con i Ridillo, una parte dei Ridillo che sono gli autori della nostra sigla e che hanno in uscita proprio oggi Playboys. Playboys, che sentiamo, di cui sentiamo la canzone principale, Sempre il solito, esce oggi. Andate, andate e compratene tutti. Sia bianco che sia nero, mai una volta che ci prenda, mai una volta. E se hai ragione tu, allora no, che non si scappa, che ho sbagliato a darti retta fin da quando ti ho incontrata. Io sempre pronto a fare festa. Eccoci, questo è sempre il solito, il primo brano del nuovo album dei Ridillo. Ma è un'anteprima mondiale, adesso non pigliare in giro come al solito, un'anteprima mondiale. Un'anteprima mondiale. Sì, ho visto che si era già segnato qualche brano. Il testo. Idea. No, ma anche perché il testo è denso, hai ragione tu. Questo interrogativo sul futuro, sul passato. Canzoni, queste qua, che ricordano comunque rapporti, caro Benji, rapporti interpersonali, amori e cose di questo tipo. Sì. Anche storie omosessuali, immagino. No, non credo. In questo caso no, non so se ce n'è una. Ecco, beh, ma tu se vedi due omosessuali per strada, certo, che si baciano, che reazione hai? Non te ne frega niente, li guardi con curiosità? No, la curiosità c'è, chiaro, perché se... Però non ti scandalizzi. No, signor Palmeri, no. se lei vede due omosessuali per strada che si baciano, che reazione ha? Non mi scandalizzo. Non gliene frega assolutamente. D'altra parte, no, con sette mi scandalizzo. Ma no, non mi scandalizzo. Perché devo scandalizzare? No, non lo so. Qualcuno al governo si scandalizza comunque. Qualcuno al governo, per esempio, l'onorevole Giovanardi. Per non far nomi, si è scandalizzato dicendo che lui. Posso dire che secondo me molti hanno un approccio ideologico e invece bisogna guardare. Ma approccio ideologico anche a parlare dei registri. Cioè, qui stiamo parlando di persone. Ma lo farebbe il registro per le coppie omosessuali? Non serve niente. Non serve il registro per le coppie. Registro, cioè, poi tra l'altro le esperienze, come sapete, hanno visto che sono pochi quelli che si iscrivono. Quello che serve veramente è appunto non scandalizzarsi e non girarsi dall'altra parte, perché ci sono delle realtà, no? Ho capito, però lei dice fare un registro delle, come è successo in alcuni comuni, con pochi risultati, devo dire la verità, sì. Con pochi risultati, perché in realtà poi questi registri dove sono stati fatti per le coppie omosessuali sono andati in pochissimi a registrare. Sì, appunto. Bologna, comunque, a Milano, se fosse eletto sindaco non lo farebbe. No. Non lo farebbe, no. Lì c'è Casini, no, là. Ma perché non serve? Cosa serve il registro? Non serve a niente. Il registro non serve. Il registro non serve a niente. E tra l'altro, invece di parlare delle cose che servono, magari nel corso di una consiliatura ci si concentra sul fare o non fare il registro, si vota una mozione in consiglio comunale e lì è finito il tema. Quando ci sono centinaia e centinaia di persone, magari anche dipendenti del comune, piuttosto che, quindi parlo di persone che frequentano gli uffici del comune, che sono che hanno fatto delle scelte omoaffettive, ma dov'è lo stupore? Omoaffettiva è una parola bruttissima, comunque. No, omoaffettive, scelte omosessuali, gay, linguaggio aulico, tecnico da qualche iniziativa legislativa. Senta, lei in Futuro Libertà è più della corrente Bocchino o della corrente Urso? Beh, tanto per così, capirci, francamente non mi sono accorto che ci siano correnti. Beh, è l'unico in Italia. Ci sono due fronti, però, il fronte dei falchi e quello delle colombe, più vicino al centro. Io ho detto che sono un gabbiano, quindi non sono né falco né colomba, eccetera. No. Fini, le ha promesso qualcosa? Assolutamente no, e mai gliel'avrei chiesto. Non si prepara ad andare in Parlamento, magari qualora si deve... Assolutamente no. Rimarrà in consiglio comunale. Non ho mai chiesto nulla. Le piacerebbe andare in Parlamento? Sì, le piacerebbe. Oh, ovviamente, cioè, lo vede nel suo futuro politico. Sì, ma il futuro non è la prossima legislatura. Beh, lei però, vuol dire, che bisogna fare per essere in consiglio comunale da candidato sindaco? Lei verrà eletto sicuramente in consiglio comunale? Sì. Al di là di una certa soglia? Sì, no? Al di là di una certa soglia. Al di là di una certa soglia. Sì, sì, sì. Ma questo anche la Moratti e Pisapia. Sì, bisognerebbe chiedere a loro, se sconfitti rimanete in consiglio comunale? Lei sì rimarrà o no? Sicuramente qui, ce lo confermi al 100%. Rimarrà. Io rimango tutti così, poi non rimane nessuno. Comunque. No, io rimango in consiglio comunale. È anche vero che io sono un candidato che proviene dal consiglio comunale. Non lo è Giuliano Pisapia, non lo era Letizia Moratti. per cui è più facile, dice, per lei. No, nel senso che... Che l'ha già fatta questa cosa. No, nel senso che, cioè, se che dove... so cosa vuol dire, e proprio perché so cosa vuol dire, è giusto che lo faccia. Comunque mancava una domanda, mancava una domanda per Manfredi Paesi, la decima. Perché i Ghisa si chiamano così? No, la penultima domanda. Sì. No, no, è l'ultima, c'è un'altra che è un'altra. Perché i Ghisa si chiamano così? Poi diamo il voto credo, finale. Credo che le motivazioni sono due, ma ce n'è una prevalente. Dico la seconda, che è quella meno prevalente, per il materiale del cappello, del tipico cappello. In realtà Ghisa, perché inizialmente il corpo dei vigili era costituito da un numero, tra l'altro molto ridotto, di persone che avevano una particolare prestanza fisica, erano molto molto grandi, sembravano quasi delle strutture, ma quella più probabile, Ghisa, la seconda, questa, cioè quella del erano cappello così, no quella della corporatura, erano così grandi che sembravano delle strutture in Ghisa. Però la cosa delle strutture in Ghisa, qui dice la definizione più probabile, però data dal fatto che il cappello a cilindro alto e grigio che i vigili portavano nel 1860 ricordava i tubi di Ghisa, di certe stufe o dei tubi di gronda. Più anticamente erano chiamate appunto a coronde stufe. E i vigili stessi sembravano delle stufe. Gliela diamo. Un 8 e mezzo, 7 no? su 10. Però includetemi, vi prego, quella delle piste ciclabili, perché ho detto nella realtà sono un po' di più. 8 di più. Nella realtà sono di meno. Meno di 70 ha detto di più. Non abbiamo seguito esattamente tutta la. Quindi siete nelle condizioni migliori per giudicare. 8 su 10. Come si fa il risotto alla milanese? Allora, posso dire che il risotto... No, però se non si sa questo... Non ceno quasi mai a casa, purtroppo. Risotto alla milanese, come si fa? Purtroppo quali sono gli ingredienti? Cucino, però Maddalena cucina molto bene. Ho capito, risotto alla milanese. Sai che non so dirti quali sono gli ingredienti e devo dire che a me... Candidato sindaco di Milano, Manfredi Valmeri, una cosa. Non sa quali sono gli ingredienti del risotto alla milanese. Quando, allora, il risotto alla milanese a me piace, ma quando sento... Quando lo zafferano deve essere perfetto, ad esempio ieri sera ho mangiato al Teatro Litta, posso dirlo? Sì. Ho mangiato al Teatro Litta un risotto alla milanese, ero al Teatro Litta perché ci siamo dati il cambio. Le fa le imitazioni? No, però ci posso provare, ma non credo di riuscirci. Al Teatro Litta i ragazzi del CAPAC... Sì. Hanno fatto un risotto alla milanese straordinario, con una piccola variazione, con dell'erba cipollina, ed era fantastico. Vabbè, però una cosa ogni l'ha detta, tanto... lo zafferano l'ha detto, poi sì, un altro è facile. Beh, il riso. Esatto. Riso vialone. Poi riso, lo zafferano. Zafferano, poi? Beh, il burro. Sì. Sì. Poi il zafferano, burro, tre. Invece è un altro facile, poi, prima di cominciare a farlo, deve fare un soffrittino di cosa, deve fare. Sì, deve fare quello che fa D'Alema anche quando fa il risotto, fa un po' di cipolla, poi c'è in teoria poi? parmigiano. Brodo di manzo. Sì. E poi c'è anche volendo il midollo di bue. Comunque non sa fare il risotto alla milanese. No, scusami, è tante altre cose che non so fare. Vabbè, non sa cucinare, comunque non sa nemmeno l'ingrediente del risotto alla milanese. Vabbè, ma c'è Maddalena che gli frega lui. Però insomma, anche qui a me è piaciuto molto l'appello a Maddalena. Bella la moglie, caro Benji del ritiro. Ha anche a che vedere con questa cosa di Barbie e Ken, di sempre il solito, no? Le ragazze, le donne che al moroso o le spose che dicono... Beh, però se uno non vota il fidanzato, il compagno quando si candida sindaco, ma quando lo sceglie? Quando lo sceglie? È una cosa pazzesca. No, l'importante è che sia scelto per, diciamo, dal punto di vista affettivo. Vabbè, ma è normale. Poi dal punto di vista politico... Si spera, insomma, che ciò accada. Ma la stima la sua compagna politicamente? Secondo me sì. Però lei continua a votare Berlusconi, la sua compagna, continua a votare Berlusconi. Ha pugnalata alle spalle, Non lo so. Vedremo. Come si fa a essere prima Berlusconi e poi diventare un po' anti-berlusconiano? Perché lei è un po' posso dire che io non sono stato né berlusconiano né anti-berlusconiano. All'interno di Futuro e Libertà lei dunque è più vicino a... Posso dire che... non ha risposto. Più vicino a quello che dice Urso o quello che dice Bocchino? Più vicino. Ma non a quello che dice, perché... Sono due cose completamente diverse. Sono due pezzi del partito diversi. Cioè uno dice che Berlusconi è il nostro... Sono stato fortunato, ma io sono sopravvissuto alla linea Urso e alla linea Bocchino. Nel senso che mi sembra che... sono qui e non credo di essere figlio di fratture, anzi al contrario. Sono oggi Berlusconi è un disastro per l'Italia? Oggi, secondo lei? Deve andare a casa o no? Secondo me il berlusconismo deve finire. No, Berlusconi. Berlusconi da politico. Solo, ma no, Berlusconi da solo è una domanda che è fine a se stessa. Cioè, qui il problema è che bisogna passare dalla seconda alla terza repubblica e questo, a mio avviso, coinciderà con la fine del berlusconismo. Bene, chiudiamo con Manfredi Palmeri. Grazie. Di essere stato noi. Posso grazie. Dire che l'obiettivo è proprio evitare che ci sia una divisione tra berlusconiani e anti-berlusconiani. Ma quello, cioè, ormai è inevitabile da vent'anni che è così. Chiudiamo con il ridillo con la canzone... del nuovo album, eh? Playboys. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Yeah. Del nuovo disco dei Ridillo, Playboys, 800 24 00 24, era Amore Amore. Bella la canzone, ce l'abbiamo tutte e due. Ci sarà anche un party il 16 a Roma, il 16 maggio. Ah, che giorno da The Place? È lunedì. È buono. Sono a Milano, però compratene tutti e accorretene tutti. Accorrete in massa. 800 24 00 24, sono le 20:35. Ascoltatori, Marco da Roma, buonasera. Ci saremo anche noi il 16, Volevo intervenire a proposito delle menzioni, se possibile. Sì, si dica. E niente, volevo dire che all'inizio della trasmissione c'è stato un intervento in cui si è detto che le menzioni andrebbero riviste, cioè andrebbero fatte delle leggi per rivedere un po' questa situazione delle menzioni, ma che non può avere un effetto retroattivo. Questo invece secondo me bisognerebbe combattere per avere un effetto retroattivo. Marco, però scusi un attimo, ridimensionarle. Sì, sì, l'effetto retroattivo non si può avere, o comunque in questa situazione in Italia non si può avere, è molto difficile che possa passare una cosa di questo tipo. Però è d'accordo con me che per una persona che versa una vita come lei... In Italia c'è la questione dei diritti acquisiti, che è una follia secondo me, cioè non si può intervenire sui diritti acquisiti, altrimenti si innescano una serie di ricorsi pazzeschi. A catena, che verranno probabilmente poi persi questi ricorsi. E dunque le cose retroattive non si possono fare, o comunque non in questo caso. Per cui, chi perfetto, prende 20.000 euro al mese di pensione non si può intervenire, perché altrimenti fa ricorsi pure all'ONU. E dunque, però, che è una cosa abbastanza bizzarra. Una grande goduria. Certo, ma una grandissima goduria, e soprattutto sarebbe corretto, giusto, nostro dovere, fonte di eccetera, eccetera, per citare, per citare qualche passo liturgico. Grazie, Marco. Luciano da Milano, buonasera. 800 24 00 24. Luciano, dica. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, è un piacere. Niente, intervenivo anch'io sul tema delle pensioni, più o meno sulla linea dell'ascoltatore precedente. Anch'io ritengo che sia una follia e profondamente ingiusto che ci siano delle pensioni, specialmente quando vengono da lavori statali, che possano toccare cifre di 20-30 mila euro. E credo che, come esiste un tetto minimo per le pensioni, che spesso è ridicolo, di 400 euro al mese, dovrebbe essere posto, se non si può fare in maniera retroattiva, perlomeno per le prossime, porre un tetto, che può essere una cosa umana. No, ma questo tipo di pensioni qui, di cui abbiamo sentito parlare oggi da Mario Giordano, sono chiaramente cose del passato che non si possono più riproporre per una serie di motivi, hanno sistemi anche diversi, eccetera. Sono uno scandalo pazzesco che accade solamente in Italia, il cumulo eccetera eccetera, ma per fortuna sono cose che non si possono riproporre nel futuro. Scandalo che nessuno ha mai voluto riparare, però, né destra né sinistra. Ritengo anche che, per quanto riguarda, questo è un altro argomento, comunque gli stipendi, per esempio statali, credo che dovrebbe essere anche in quel caso posto un tetto massimo per quanto riguarda quel tipo di stipendio. Cioè, ma lo stipendio statale, lei di cosa sta parlando? Scusi, dello stipendio, scusi un attimo, dello stipendio di che cosa? Di un manager pubblico, la questione del tetto? No, qualunque stipendio che riguardi il pubblico, che quindi è un servizio sociale, un servizio che riguarda tutti, non ci si può arricchire con il pubblico, e credo che potrebbe essere una proposta. Nessuno si arricchisce con il pubblico, per quello che riguarda gli stipendi normali degli impiegati, non è che ci si arricchisce. Questo, magari si ha la garanzia del posto a vita. Sulla questione del manager sicuramente non si sforano certe cifre. Sì, ma ma non stiamo parlando degli impiegati pubblici, abbia pazienza. Quando uno fa l'impiegato pubblico non è che si arricchisce, ha la garanzia del posto a vita, e questo lo sappiamo. Dopodiché, per quello che riguarda il tetto lo stipendio, il tetto degli stipendi ai manager pubblici, se ne parlò a un certo punto, fu anche messo, secondo me è sbagliato, perché è certo in questo modo ci si priva della possibilità di avere nel pubblico anche manager più capaci. Ma io nel pubblico intendo anche parlamentari, comunque parlamentari, politici, comunque carica pubblica. Carica pubblica, non capisco che cosa vuol dire. Andiamo sul concreto, che cosa vorrebbe fare lei, Luciano? Non mi faccia arrabbiare, non mi faccia come i politici che sono generici. Che cosa vorrebbe fare? Non l'ho capito. No, il semplice fatto che uno stipendio in periodi nel quale tutti, ma che stipendio di chi? Ma che cosa bisognerebbe fare? Tagliare lo stipendio? Non ho capito, no, Luciano. Tagliare ovviamente gli stipendi, i diritti acquisiti non si possono toccare. Ma allora di che parliamo? Allora, parliamo di una cosa concreta, altrimenti non capisco nulla. Una cosa concreta è che uno stipendio futuro per una persona che entra a lavorare nel pubblico non può raggiungere cifre stellari. Ma non raggiunge mai cifre stellari nel pubblico? Nel pubblico. Beh, gli stipendi dei parlamentari non mi sembrano. Ma quello è un altro discorso. Gli stipendi dei parlamentari hanno un'altra regolamentazione che dipende dalla Camera e dal Senato, non dipende dalla. Ovvio. Ho capito, lei parli di una cosa, di cosa però il direttore generale della RAI, che ne so, di qualche top manager pubblico lì, che c'è da ritoccare lì? Va bene, Luciano, la ringrazio. Michele, non ho capito niente, per cui passiamo, andiamo oltre. Luciano, non ho capito nulla. Due minuti che cerco di capire da lei che cosa vuole dire, e siamo arrivati allo stipendio dei politici. Lo stipendio dei politici lei lo reputa eccessivo, io lo trovo normale. Un'altra cosa è il vitalizio, che andrebbe secondo me molto ridimensionato, se non addirittura abolito. Michele da Brindisi, buonasera. Michele? Che ha mandato la musica, Michele? Michele? Cosa fa? Da oggi l'innovazione corre su strada con la nuova. Ma che sta facendo? Ma che fai? Si fa i comodi suoi. Michele, è da un po' che era in onda, eh. Di nuova generazione è in Blue Class. Efficienza. Ma che fa? Michele? Ha mandato la pubblicità alla sua azienda, che fa? Ma cosa fa? Michele? Michele? Oh! Pronto? Ma che sta facendo? Ma che fa? Suona i bonghi. Ma chi è sto ascoltatore? Ci vuole prendere per i fondelli. È vero che è un po' di tempo che era collegato, dunque si era scocciato. Michele? Michele, pronto? Non vorremmo che fosse successo qualcosa di grave, insomma, è caduto all'improvviso, non lo so. È caduto il telefono. È caduto il telefono. Michele da Brindisi, lasciamolo lì, vediamo. Ci sta, coglionà, Michele. Riprendiamolo tra tre minuti. Bruno da dove? Da Foggia, da dove? Bruno? Sì, pronto. Da dove ci chiama lei? Da Foggia. Da Foggia, ma mi hanno scritto Goggia. Si immagina un po'. Vabbè, Foggia, Bruno da Foggia, dica. Volevo intervenire a proposito della chiusura degli esercizi commerciali o dell'apertura degli esercizi commerciali nella giornata del primo maggio. È passato il primo maggio, però parliamone. È il 3, è il 3 oggi comunque. Siccome se ne parlava poco fa in trasmissione. Sì, dica. Volevo dire la mia. Premesso che non sono né iscritto né simpatizzante della CGIL e che negli ultimi tempi ne ha fatte di cazzate. Tanto per essere chiari, il mio punto di vista è che gli esercizi commerciali non sono un servizio essenziale, per cui non possono essere trattati come la sanità o l'informazione. Si tratta di qualcosa di un po' meno importante. E poi il discorso che l'apertura è facoltativa è poco convincente, perché è facoltativa per il titolare dell'esercizio commerciale, non per i dipendenti, che dovrebbero comunque adeguarsi alla volontà del titolare. Certo. Ho capito, ma a parte che non è così, perché non è che se i dipendenti non vogliono lavorare il primo maggio, non è che sono obbligati a lavorare il primo maggio. Poi lei dice più o meno alla fine no, è così. Se il negozio è aperto con i dipendenti, mica se quelli si rifiutano, il padrone e il proprietario non avrà il tempo di dire. Ma è una stupidità, io voglio conoscere uno che si rifiuta di lavorare in un momento come questo. Non lo conosco, francamente. Se lei li conosce, mi chiami. Va bene, Bruno, ho capito. Lei dice tenerli aperti vuol dire non lasciare scelte ai lavoratori dipendenti. Appunto. Ho capito. Cioè, meno male, non mi pare un dramma lavorare il primo maggio. Non è un dramma. Uno è pagato anche di più, peraltro. È pagato di più. Assolutamente no. Però si tratta di mettere in discussione qualcosa che ha assunto un significato importante per i lavoratori. Nel tempo. Sì, ma io non discuto sul simbolo. A me non me ne frega assolutamente nulla del simbolo del primo maggio. Però, detto questo. Ognuno si comporta come vuole e i simboli che vuole. La ringrazio. Emilio da Bergamo, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Due brevissime considerazioni e una domanda. La prima considerazione è sul libro di Giordano, libro interessantissimo, cosa che dice sacrosante verità. Peccato però che né Giordano, né un po' tantomeno lei quando lo ha intervistato, ha fatto una considerazione, sarà forse banale, che nei 10 anni di governo Berlusconi e della Lega nessuno, per dire nessun provvedimento, è stato nel senso auspicato dal direttore Giordano. Ma questo stava a sentire, è scontato. Se ci ha sono scritto articoli quando era direttore del giornale. No, guarda, allora, sulla questione, a parte che la normativa sulle pensioni non è facile modificarla, se parliamo del vitalizio dei parlamentari, del vitalizio. Ma come non è facile modificarla? Si fa una legge, voglio dire. Ma qual è noi stiamo parlando delle cose, dell'importo delle pensioni, del cumulo delle pensioni, ci sono tanti problemi insieme, non è così sì, semplice. Ma io non voglio entrare nei dettagli tecnici, voglio dire che io non ho mai sentito una dichiarazione di Vossi, di Maroni, di Berlusconi, dice qui c'è uno scandalo, chi prende sulle 20 pensioni, milioni. Sulle pensioni d'oro, lei dice, ma è sono delle cose che riguardano la legislazione generale sulle pensioni in Italia negli ultimi 30-40 anni. I cumuli, non è che i ministri di un governo possono ho dire. Ho capito, ma questi cumuli no, ma non lei, è che la lei ha ragione, è cambiata, per lei... carità, il pregresso è pregresso, no, però ma lei ha ragione, tra 10 anni sì. Il futuro Cruciani continuerà a dire che ci stanno pensioni d'oro e andremo avanti chissà fino a quando. Sì. Oh, è così, detto questo, se io avessi fatto la domanda a Giordano, ma forse l'abbiamo anche fatta, mi sono dimenticato, ma nessuno è intervenuto negli ultimi 20 anni, lui avrebbe detto no, sì. Nessun governo è intervenuto negli ultimi anni per modificare queste cose, anche se dal punto di vista legislativo è difficile modificarle perché sono cose che si sono stratificate nel tempo e bisogna ledere dei diritti individuali acquisiti. Si può agire invece per quello che riguarda il vitalizio dei parlamentari, non è semplice anche lì sul pregresso, sul futuro bisogna essere più coraggiosi. Sono stato troppo diplomatico? No, ma è così, è vero, tutte le riforme vengono sempre per il futuro, anche la riduzione del numero dei parlamentari, ad esempio il governo Prodi la fece, invece sì, però vale per dopo il 2022, sì. È così. I capponi non festeggiano il Natale. L'hai mai visto tu qualche cappone? E poi non si è fatta manco quella in realtà. Poi, 20:46, torniamo tra un secondo dopo il traffico. Ti metti a cantare. Ti piace quando fa Ma sei negato, eh? Non fare queste cose, sei negato. Anche Cacciari canta sempre Zaza Party. Zaza Party. Ma chi? Cacciari. Professor Cacciari, quando dove si trova in questo momento? In gondola. Come? Ma dove vuole che mi trovi? Sono a casa mia a farmi i cazzi miei. Ma telefonare in continuazione. Scusi, Aia, poi questo fastidioso. Ha sentito, c'è il suo pupillo Palmieri. Palmieri, ho sentito tutto, era molto bravo Palmieri. Avevamo fatto un'operazione politica perfetta su Milano. Ma lei voleva candidare a Bertini, E che domanda? Ma lo sanno anche i sassi Cruciani. Volevo candidare a Bertini. Ho capito. È saltato tutto, mi hanno rotto i Feuerbach nel paniere. Per colpa di chi? Per colpa di questi incipienti idioti di sinistra. La sinistra è fatta di cretini, lo so. Anche lei era di sinistra, scusi. Ma chiudo il collegamento, ma mi telefono. Ero di sì, ma sono categorie morte, lo capisce o no? Io credo sia no la risposta, credo. Scusi, professor Cacciari, ma adesso è contento della candidatura di Palmieri comunque o no? Per forza, meglio il taccon del buso, se dice il vento. Cioè, è un rimedio. È un rimedio, qualcuno dovevamo mettere come terzo polo, o no? Chiedo, o lasciavamo tutto aperto, vota tu il candidato che vuoi a sindaco, nome in bianco e mettevamo Cacciari, ad esempio. Ma non voleva candidarsi, a Milano. Ma io ho già fatto benissimo il sindaco di Venezia, torno a fare il filosofo, il kingmaker, sa cos'è il kingmaker? Sì, più o quello meno, che si muove dietro, che costruisce ragnatele, accordi, strategie. Va bene, grazie a Massimo Cacciari, grazie di questo ennesimo collegamento con la Zanzara. Non le va bene nemmeno la Zanzara Party. Questo clima di sbacco sempre. Ridillo, ma cosa vuoi ridire? Non hai niente da dire e ridillo ancora. Basta! Vabbè, allora, sentiamo se sto Michele da Brindisi risponde però, perché... Italia 1 live! Michele! Si chiama Cavallaro. Ma questa qua è Striscia la Notizia. Questo è matto. Questo è pazzo, ha lasciato il telefono sul televisore così. Michele da Brindisi. Michele? Michele? Ma che sta facendo? Questo è matto. Questo è pazzo totale. Michele da Brindisi, risponda. Non volevo io. Però... Ma non vorrei che fosse successo qualcosa sul serio. Ha lasciato il telefono acceso. È stato male. Signor Michele da Brindisi. Va bene, ma questo c'è, è curioso. Una cosa incredibile. Angelo da Firenze, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Sì, no, e niente, volevo chiedere come mai, cioè, volevo il fatto che oggi ci dica, visto... Pronto, mi sente? Sì, sì, la sento, sì. Sì, no, niente, volevo dire che abbiamo visto, come tutti gli anni, alla festa del primo maggio, così come per l'ennesima volta sul Fatto Quotidiano, delle vignette contro il Papa o delle cose molto che sfiorano il blasfemo. Volevo dire come mai molta gente di sinistra, politici, come faccio un esempio su tanti, la Rosi Bindi, sì, che è presenzialista alla trasmissione di Santoro Anno Zero, si dichiarano cattolici e però avvallano sia con la loro politica sia con il loro appoggio sempre queste situazioni che sfiorano i blasfemi. Cosa dice? No, ma scusi un attimo, assolutamente fuori, cioè strumentalizzare pure alla festa, Angelo, dell'altro giorno. Angelo, scusi un attimo, abbia, sì, pazienza. Trattasi di satira, cioè la satira più corrosiva. Sì, ho capito, la satira, però anche allora, il primo maggio. Allora, ma qual è il problema? Cosa c'entra la Bindi col Fatto L'anno Quotidiano? L'anno scorso ci siamo sorbiti la signora, per usare un eufemismo, della Guzzanti, che sparava, se non ricordo male. Ho capito, ma se uno vuole, non è mica un obbligo sentire il concerto del primo maggio o chi comizia dal palco sul primo maggio. Sì, grazie che non è... Non è un obbligo, chi se ne frega. Però la Rai, cioè, per esempio, parliamo della Rai, allora torniamo al discorso di Anno Zero. Anno Zero, la Rai, io pago il canone e mi devo sorbire sul servizio pubblico queste cose. Il concerto del primo maggio. Il concerto del primo maggio c'è Minzolini, dai, ci stanno tutte e no, due. No, questo su. Non c'entra niente. Sì, ma come no? No, c'è Minzolini. Il problema è Minzolini c'è tutte le sere, il primo maggio una volta all'anno. Comunque, in ogni caso, al di là della distinzione che c'è tra Minzolini e Primo Maggio, il concerto del Primo Maggio, una polemica ci può anche stare, però, ripeto, il concerto del Primo Maggio, si sa, è appaltato alla sinistra da un sacco di anni. Si fanno comizi da parte di alcuni cantanti, non c'è dubbio, anti-berlusconiani, si parla di... È la festa del lavoro, non sì, ma non è così, però sul palco si va a fare un comizietto, sempre il solito piccolo comizietto contro Berlusconi, con allusioni... Berlusconi, sul tema così, del lavoro, sul tema del precariato... Non è solo sul tema del lavoro, ho sentito benissimo l'introduzione di molti artisti, là c'è sempre il solito comizietto, ma va benissimo, chi se ne frega, cioè non bisogna vietare nulla, tantomeno la satira, perché l'ascoltatore si riferiva alla satira di Bauro, certo, altre... vignette, tanto meno la satira. Misfatto. Allargare sempre, criticare, ma allargare sempre, includere, sembra il Papa, includere. Cioè, Cociario ecumenico, però dice delle cose sane. Diego da Verona, buonasera. Devo fare i complimenti alla vostra radio e alla vostra trasmissione. Devo fare solo un'osservazione, ecco. Sì. Io ho seguito solo la prima parte del programma e sentivo il signore lì che si candida come terzo polo per fare il sindaco di Milano. Sì. La considerazione che voglio fare è questa, ho sentito parlare tutto così, e ecco, vorrei fargli i complimenti perché sicuramente parla molto bene, però ecco, secondo me è un politico perfetto, nel senso che, come ho detto prima, parla molto bene, però è sempre vago. Ma su che cosa è stato vago? Ma all'iniziare, quando con Dell'Utri non sapeva cosa dire. E su Dell'Utri era un po' in difficoltà, oggettivamente. Va bene, senza sporcarsi le mani. Sì, sì, va bene, ma insomma, voglio dire, non abbiamo fatto una intervista su cose locali, perché non gliene importa niente a nessuno. Radio Nazionale, che parliamo dei trombini. No, ok, però voglio dire... Vabbè, a parte la questione Dell'Utri, cosa c'era? Ecco, io dico questo, l'impressione che ho avuto è sicuramente un prossimo politico, perché come tanti altri che mi sembra di sentire, sì, in giro, Com'è Diego? Com'è? Ottima capacità di parlare, ottima capacità di. Però lei dice un po' di vuoto, un po' vuoto. Secondo me, a mia opinione, è con poca sostanza. Un po' vuoto. Con poca sostanza, vabbè. La prima cosa che voleva fare lui come sindaco. Vabbè, la prima cosa ha detto: mettere la bandiera italiana, un'enorme bandiera italiana al Monte Stella. Gesto simbolico, dai. Gesto simbolico. Può piacere, non piacere. Non è che si fanno. Chi se ne frega, dopodiché, non è che ha detto. Non mi pare una cosa così scandalosa. Lo vuole asfaltare tutte le strade di Milano in un giorno. Dobbiamo chiudere, caro Parenzo. Di già. Ci sentiamo domani alle. E poi invece giovedì siamo a Napoli, giovedì e venerdì a Napoli. Venite a trovarci a Napoli, massa. Venite a trovarci a Napoli, poi domani daremo un indirizzo. Va bene. A domani 18:30. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.